Guardi che adesso io glielo dico, non lo dico in giro. Sgarbi una volta, durante una diretta televisiva, ha fatto una scorreggia spaventosa, hanno fermato subito la trasmissione, perché ormai appena entra Sgarbi fermano la trasmissione e non la fanno più. È una cosa, guarda. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Zanzarosi, siamo in onda, è tornato il lupo cattivo. Finalmente è finito in onda, significa che David torna a essere quello dei bei tempi e rimane fino alla fine e prende insulti tutti, cazzo. Dai che ci manchi, David! Oh, ci sono anche i tuoi supporter in giro, eh! Vedo, nascosti, sento, nascosti, sento, in sonno, come si dice, no? In sonno. Sì, cellule dormienti come quelle di Al Qaeda, solo, sì. Ogni tanto belle notizie. Ti ricordi il gioielliere che sparò e uccise un rapinatore? Come dimenticarlo, certamente. Beh, ce ne sono tanti in realtà. Uno in particolare, voglio abbracciarlo fortissimo. Rodolfo Corazzo, 24 novembre, Rodano, Rodano nel Milanese, uccise sparando alcuni colpi di pistola un rapinatore albanese entrato nella sua casa. Gente ancora latitante, gli altri naturalmente, quello è sottoterra, no? Totalmente prosciolto. Eccesso bene. Colposi, legittima difesa era la, ovviamente la, sì, l'accusa, l'accusa, no? L'accusa, prosciolto. La, bene, signor, vedi che... Rodolfo Corazzo. Vedi che la giustizia funziona, allora. Troppo è stato tempo giusto. È stato perso. Troppo ma, tempo ma è stato perso. Cioè, è stato uomo... perso troppo tempo. E però c'è qualcuno che ha perso la vita intanto. Scusa, quello è entrato dentro casa per rapinare e te sparano addosso. E sono... non devono neanche farsi le indagini. Si sono fatte le indagini. Troppo e alla tempo. Fine è stato assolto. Troppo perché tempo. La giustizia è così. Dal 24 novembre fino a settembre, troppo anzi, tempo poco, perso. Pochissimo, come pochissimo? Messo. È passato quasi un anno. È ma passato è quasi un anno. Giustizia veloce, si parla sempre di giustizia ma lenta. Guarda dai. Che veloce che è stata la giustizia. Vogliamo ricordare, signore. Ma veloce, quasi un anno di incubo, un anno di appeso lì a, una, a un giudice che magari si sveglia la mattina e ti dice: no, tu eri in una posizione tale quindi, per cui potevi vedere, eccetera, eccetera. Quel che dici dai. Tu, dovevano, non dovevano neanche indagarlo. Incredibile, no. Un uomo morto dopo non tre va fatto giorni, neanche un'indagine. Dopo tre giorni bisognava chiudere la pratica. Dopo tre giorni, chiudiamo la pratica. Ma perché dopo? Ma perché dopo un'ora? Perché non dopo un'ora? Perché no, tre giorni? In alcuni casi, quando le cose sono evidenti, chiare, lampanti, evidenti perché a no? Chi? Perché a no? Chi? Comunque, lasciamo perdere un'ora, tre giorni. Mi sembra che un anno sia troppo. Le parole di Corazzo. Giustizia velocissima. Ti abbraccio fortissimo, caro Rodolfo. Mi ricordo che sei venuto qui in esclusiva, qui alla Zanzara, a raccontare il tuo dramma, la tua vicenda, la tua storia, il modo in cui hai reagito, anche il dispiacere per quello morto sottoterra, evidente, no? Cioè, uno prova dispiacere per uno ammazzato, per carità, però, come dire, no? Com'è il proverbio? Vita tua, com'è? Morse tua, vita mea. Io tu non hai dubbi, è sicuramente legittima difesa. Al 100%, perché io ho fatto quel che dovevo fare per difendere la mia famiglia. Ho risposto al fuoco, ho risposto alle minacce, non volevo stare la pistola, non volevo fare niente. La potevo stare prima, non l'ho fatto, io volevo solo tranquillità che andassero via. Hanno preso quel che dovevano prendere, ma loro non si sono accontentati di quel che avevo. Sì, e certo. Quindi ringrazio Dio di aver avuto, di essere armato. Amici miei, armatevi tutti finché potete. Finché potete, armatevi tutti. Se potete, prendete il porto d'armi. Armatevi di pistole, di fucili. Se ma potete, legittima. Ah, hai detto una parola magica. Hai pronunciato una parola magica. Ti sto preparando uno scherzetto. Caro amico mio, lo sai che io l'unico pensiero che ho per quest'autunno. Non si potrà più andare negli Stati Uniti. No, caro Davide, non esagerare. Non dire cazzate. Non dire cazzate. Intanto dobbiamo dire qualcosa sull'ambasciatore americano, che è una vergogna. Un ambasciatore americano, quello che ha detto oggi, che ha detto che si schiera per il sì al referendum. Perché l'Italia sarà più stabile. Beh, una vergogna. Beh, no, lui non si schiera per no, il ma sì. Lasciamo, come lui non è che può votare l'ambasciatore americano, che no, cazzo vota. Ha detto che è preferibile sì, che vinca il sì. Ho visto tutto, no, ma aspetta, adesso io, ci arriviamo, sì. Adesso ci arriviamo. Voglio dirti una cosa, io ho un solo obiettivo per quel prossimo autunno, forse addirittura per il prossimo anno, non me ne frega nulla di niente, di nessuno. Ho un solo sogno nella mia vita, qui nel mio cuore, la vittoria di Trump. Per carità. Solo quello potrebbe trasformare la mia vita disgraziata in una vita col sorriso sulle labbra, una vita piena di slancio, di emozione. Di voglio la vittoria di Trump. Ma per questo, carità. Voglio la vittoria di Trump più di ogni altra cosa al mondo, ti giuro. Anche mia figlia ha bocciato un anno a scuola. Basta, no, che vinca Trump. Sì, questo bellissimo. Ma chi se ne frega? Impazzito, come un anno in più o in meno a scuola. Figlia mia figlia, Trump. Faccio lo perché scambio domani mattina. Sei. Posso fare? Dove devo firmare? Dove devo filmare? Mia figlia ha bocciato. Dove sei matto? Mia sei. Figlia ha bocciato. Ci ho pensato adesso, ti giuro, non me la sono preparata. Ma è una cosa gravissima. Mia figlia ha bocciato a scuola un anno in cambio della vittoria ma di Trump. Ma tua figlia? Fatemi firmare un documento. Fatemi firmare un documento. È la povera figlia. Fatemi firmare un documento. Voglio fare uno scambio, se è possibile. La vittoria. No, se mamma fosse possibile mia, in un mondo ragazzi. Così. Siamo scambiare. Ma è la depravazione. Ma neanche no, la depravazione. È la bassezza. No. Ma le fogne di Calcutta, di Caracas. Ma che ci sono le fogne di Caracas? Le fogne di Caracas sono più pulite di quello che dici. Scusa, ma è un desiderata questo qua, è ma un auspicio, schifo, ma è non un si auspicio. Deve neanche pensare, ma un che male cosa? Per tua figlia è un male per un male, il mondo. Sai quanta gente è stata rimandata e bocciata e poi sono diventati premi Nobel? Non se lo augura ai propri figli. No, non me lo sto augurando. Per ho la detto, vittoria di quel coglione, peraltro. Io per dicendo, se potessi fare uno scambio, sto dicendo, se potessi fare uno scambio, ma neanche per scherzo, se potessi fare uno scambio, scambierei tranquillamente, ma proprio tranquillamente, senza nessun problema. Un anno mia figlia bocciata a scuola, tanto le scuole medie non contano tutto, non poco, conta niente. Perché siamo matti? È iniziato la scuola media l'altro giorno. Scuola media, un anno in più in cambio della vittoria di Trump. Ma domani mattina firmo. Firmo domani mattina. Guarda che c'è gente strana in giro. C'è gente strana in giro. No, Salvini, che c'è? No, Salvini, stavolta c'è ragione, no. Salvini. A proposito, caro Parenzo, c'è Marco da dire, Salvini arriva a sti livelli. A proposito di legittima difesa, voglio rivalutare la storia che abbiamo trattato ieri solo in parte. Tu hai attaccato in maniera molto vibrante, molto vigorosa, come dire, questo consigliere regionale di Forza Italia che vuole dare la sua assistenza giuridica gratuita, è un avvocato, a un tizio che ha reagito a un tentativo di furto nella borsetta della fidanzata, sì, con un pugno in faccia al marocchino, all'extracomunitario, eccetera. Tutta robaccia, mandandolo, per farsi pubblicità. Mandandolo in ospedale. Devo dire la verità, ragazzi, immaginatevi la scena, la vostra ragazza, voi passeggiate per il centro di una città, in questo caso era addirittura in periferia, in una zona piuttosto complicata, e un tizio, voi non conoscete chi è, chi non è, eccetera, nero, bianco, giallo che sia, mette la mano dentro la borsetta della vostra ragazza. Io dico che voi siete non solo autorizzati, ma siete assolutamente legittimati a sferrare un pugno a questo signore. Non mi pare una cosa così folle immaginare che uno che vede una mano lì, un tentativo di furto, la borsetta, eccetera, in una zona periferica di una città, ma lasciamo perdere questo, prenda a pugni l'aggressore. Non mi pare uno scandalo. Io non capisco nemmeno perché questo qua è stato denunciato, francamente. Per lesioni aggravate. Adesso, se le cose stanno, no, se le cose stanno come sono state descritte, cioè uno ha reagito e ha preso a pugni questo tizio, non capisco dov'è il problema. Cioè, tu tenti di rubare, io non so se tu tenti solo di rubare, magari c'hai il coltello, ti do un pugno, qual è il problema? Prosciolti immediatamente, ma senza neppure passare dalla via. Non sappiamo se gli ha dato solo un pugno e una spinta o se invece lo ha massacrato, no, di botte. No, non l'ha massacrato, no, nessuno. No, eccolo là, il soccorso rosso, il soccorso nero che arriva, eccolo. Oh, e veniamo, che soccorso nero, che c'entra i neri, i bianchi, i rossi, il soccorso, dai. Dai, non c'entra nulla, dai. Allora, veniamo a un po' di ciccia politica che c'è in giro. Allora, la vergogna dell'ambasciatore americano in Italia. Ora, l'ambasciatore americano in Italia si deve fare i cazzi suoi, diciamolo chiaramente. Qui, da Radio 24, Radio della Confindustria, eccetera, che è schierata per il sì, come sai, no? Ma qui noi abbiamo la libertà, sì. Io non ho ancora deciso, non me ne frega assolutamente nulla. Io non dirò per chi voto, te lo dico no, solo. Io lo dirò quando sarà, lo dirò. Ma tu sei ormai diventato... Non dirò se voto sì o se voto no. Vabbè, ma comunque dico. Non frega niente a nessuno, nemmeno a del nessuno, referendum. Infatti, esatto. No. Il punto è, importa molto andrò invece... Andrò a votare, ma non dirò per che cosa. Ma perché, scusa, non ho capito, qual è il problema? Che non devi dirò, per chi voti. No, ma perché? Perché sennò risultano poco credibili le domande che faccio, e quindi non voglio che si dica, lui è per il sì, e quindi chiede quella cosa. Sei diventato peggio le cose. Lui è per il no... Quindi chiede quella cosa. Ma no, io non dirò ma per devi chi sottrarti voto. A così questa posso roba. Liberamente fare le domande, ma mettere devi sottrarti in difficoltà a questa... questo o quell'altro. Ma no, va, no, no, no, ma non dire perché cazzate. Altrimenti tutto viene ma... divorato dalla rete. Ma ogni dici, cosa dici che tu vai viene divorato. Dici ah, lui ha detto così perché contro devi il 5 sottrarti Stelle, a questa... contro. Devi sottrarti ma che me a questa ne frega? Cosa. Ma adesso abbiamo scoperto che Pinochet è venezuelano, ad esempio, va benissimo. Quello è stupendo. No, ma lì è la rete. Ma è così. È un complotto, eh. Pinochet. Aspetta, fammi andare per ordine. Allora, l'ambasciatore americano dice che vuole che l'Italia, in Italia prevalga il sì perché dà più stabilità. L'ambasciatore americano in Italia si deve fare i cazzi suoi. No, vabbè, o se lo pensa, lo deve dire in privato ai suoi amici. Non è che può rompere i coglioni a noi perché dice che l'America vuole, secondo lui, o comunque lui o l'America. Stabilità, vabbè, questo no, capito, ma andasse a fare in culo. Dai, su, l'ambasciatore americano deve stare zitto e non rompere i coglioni. Dai, su, diciamo le cose chiare. Cioè, io non so ancora se voterò l'ambasciatore. Ma che vuole? L'ambasciatore è un singolo, non ho detto l'America, figuriamoci. L'ambasciatore rappresenta gli Stati Uniti. L'ambasciatore americano, ha una domanda, risposta, l'ambasciatore americano si deve fare i cazzi suoi. Ma perché sposta voti l'ambasciatore? Non mi interessa, americano? Si deve fare i cazzi suoi. Prima cosa, prima si deve fare i cazzi quando suoi. Quando ci fu la Brexit, gli italiani dissero la stessa cosa sull'Inghilterra, ad esempio. Ma se vince c'entra? Il no è pericoloso. Magari mica l'ambasciatore italiano a Londra. Che cosa cazzo c'è? Non lo so, ma magari il presidente del consiglio qualcosa. Ma un politico ha detto. Può dire quello che vuole, non l'ambasciatore che rappresenta l'America in quel momento. Dai, su, non dire, è una puttanata pazzesca, un autogol incredibile, dai. Prima cosa, seconda cosa, beh, amici miei, Di Maio è il coso, no? Il webmaster, come dice il nostro amico, il webmaster Di Maio. Sì. A parte la puttanata, Renzi è come Pinochet. Cioè, a parte la puttanata incredibile, cioè, Renzi si può dire tutto, io non sono renziano, non me ne frega niente, ma paragonare Renzi a Pinochet, dittatore del Cile negli anni 70, come sempre, è una stronzata. No, perché poi... è dittatore del Venezuela, no? Ah, del sì, Cile. Lui ha detto del Venezuela, sì. È dittatore venezuelano. Ma lì è webmaster. Amico lo mio, ha detto cioè. La rete. Io la non, rete, non riesco a capire come si possa non sapere, io non so tante cose, ma una cosa la so, che Pinochet ha governato, è stato capo di Stato in Cile. Questo lo so, ma perché bisogna saperlo, uno che fa politica. Basta aver letto cosa... Isabella Allende, magari. Non lo so, ogni magari tanto. Sarà un errore della rete lì. Sì, sarà stato hackerato sì. Il profilo come la Martani. Sì, l'hanno hackerato, evidente, dai. Io la mia ragazza ormai, lei in Italia, io in Lituania. Quando ci salutiamo, non ci diciamo più quelle stronzate come mi manchi. Ti amo. Buonanotte, amore. Ma ci diciamo soltanto traffi. La Zanzara. Allora ragazzi, aspetta che sentiamo un po' questa canzone che è formidabile, mi ha accompagnato tutta l'estate, vai. Let's go, ay, oh, let's go, ay, oh, let's go, ay, oh, let's go. Allora, e andiamo avanti in questo modo, caro Parenzo. Ripeto, molti non ci credono, veramente io darei in cambio, se fosse possibile, chiaramente è una cosa non realizzabile, la bocciatura di mia figlia alla scuola. Ma no, ma non dirò per la vittoria per scherzo, di Trump. No, ma è vero, paradosso. È vero. Ma no, ma perché devi dire una sciocchezza simile? Ma perché una sciocchezza? Povera ragazzina, tirare in ballo la bambina, dai. Ma come si fa? Poi disponi della tua vita, dai la tua vita miserabile in cambio della vittoria di un altro miserabile. Vabbè, ma non mettere in campo tu, la vita. Decidi tu una cosa che no, posso scambiare non... con la vittoria di Trump. No, cosa posso scambiare? Sulla tua vita. Cosa posso scambiare con la vittoria di Trump? Cosa posso cosa scambiare? Puoi dimmelo scambiare? Tu. Cosa puoi... posso scambiare? Ecco, per smettere per un mese di fare la radio se vince Trump. Ma che cazzo c'entra adesso? No, tu ti scusa, devi ma perché dare... mi devo, mi devo tagliare appunto. I coglioni? Scusa. Ma perché devi rompere le palle a tua figlia? Ma no, ma infatti. Devi. No, perché se uno dice in genere cosa dici io per avere quella donna sarei disposto a fare qualunque cosa, no? È questo, quindi uno mette in ballo un desiderio, una cosa bella che fa. Siccome una cosa bella che si fa è la radio, tu devi dire: non se mia figlia viene, sono disposto a mettere la vita di mia figlia per Trump. Devi mettere la tua di mezzo, non quella di tua figlia. Devi dire: se vince Trump, sono disposto non per un mese, per una settimana a sacrificarmi a non fare la radio. Ma l'ho già detto. E ad ascoltare Barisoni per una settimana. Questo devi fare. No, dice, ascolto no, Barisoni per una settimana. Senza il telefono aperto, con gli ospiti lì che pontifico di economia, spread, cookie, cucà, non so niente io. Ecco, quello devi fare. Metto a disposizione dalle 18.30 alle 20.50 la trasmissione a Sebastiano Barisoni, oppure come si chiama, quello dei cani lì della Celentano, come si chiama quello straordinario lì? Vita da cane, non lo so, vita da, come si chiama, quel bellissimo della Celentano, meraviglioso è quello, con gente. No, potrei diventare vegano per un mese. Ecco, bravo, commenti in discussione la tua vita, non quella dice, vabbè. Se vince Trump... Parenzo si depila. Dici come Parenzo si depila? Beh, fatelo sulla vita tua, perché sulla vita mia devi fartelo. Se vince Trump, no, ripeto. Io posso scommettere, ad esempio, su una cosa mia. Cioè dico, se non vince Trump, vabbè, sono facile, disposto però, a... E no, è questo bisogna fare. Però senti un attimo una cosa. Allora, tu fai la scommessa. Vabbè, se ho capito, Trump, ho capito. Adesso ci per un penso. Mese fai il vegano. Dillo. Ma no, quello sicuro, ma l'ho già detto. Ma non con la vita di tua figlia, con la tua devi giocare. Ma quella è importante, la questione di mia figlia è importante. La ribadisco e la confermo. Un'altra cosa. La questione di Napoli, c'è gente addirittura che mi dedica una canzone sulla questione di Napoli. Beh, lì sei stato molto pesante, sgarbato. Sempre pesante, sono me stesso, cazzo. Ma che sgarbato e scorretto? Ma chi sei diventato? Non dici per chi voti al referendum. No, sgarbato, no. Scorretto. Ma che cazzo vuoi diventare? Scorretto, ma che cazzo vuoi diventare? Sgrammaticato e anche insolente nei confronti di una, sì, di una bella città come Napoli, che ha qualche problema. Perché qualche problema a Napoli? No, ho detto qualche problema. No, ma senti quella Napoli, canzone che mi hanno dedicato. Ad esempio, il traffico. Senti la canzone di Napoli, il traffico. Senti la canzone. Se sei una loda, ti chiami Cruciani. Chi schifa Cruciani, alzasse la mano. Io schifo a Cruciani, tu schifi a Cruciani, lui schifa Cruciani, finiamo domani. Roba da X Factor, questa roba molto qua, la roba da questa. X Factor. Roba da X Factor. Ragazzi, voglio ribadire una cosa molto semplice. Consegnare i giochi olimpici a Napoli, poi avremo sorprese su Napoli, minacce di morte, minacce, mi chiamano mia madre una puttana, mia figlia una sgualdrina, le peggio cose, solo a Napoli possono succedere. La reazione di Napoli è molto diversa rispetto a dei napoletani, di una parte dei napoletani, naturalmente è molto diversa da quella di qualsiasi altro cittadino, credo, del globo terracqueo. Tu dici che se avessi insultato Bergamo non sarebbe accaduto. Abbiamo detto, dici, per una vita che Roma è una monnezza, una cloaca, non è che i romani si sono ribellati a questa cosa, hanno candidamente ammesso che Roma è ancora una latrina. Cioè, c'è poco da fare, è così. Non è che hanno detto no, però tu sei uno stronzo a dire questo, odi i romani. No, è semplicemente la realtà. Roma è ancora una latrina e i romani dicono, beh, con questa situazione le Olimpiadi non si possono fare. O comunque non è che ti insultano perché dici la realtà. Sì, questo è vero. Allora, questo è il problema. Ti dico una cosa. Che affibbiare le Olimpiadi a Napoli, consegnare le Olimpiadi a Napoli, cosa che non avverrà mai ovviamente, sarebbe come, non so, dare, sai, i tuoi gioielli di famiglia, consegnarli, affidarli ad un campo rom e sperare che te li restituiscano integri, interi, intoccati. Mi pare un paragone eccessivo, sbagliato. Mi sembra un paragone molto, sbagliato, molto calzante. No, un paragone, no, no. È come, cioè, consegnare le Olimpiadi a Napoli, è come se tu dici, vabbè, ti do, vai dal capo rom di un villaggio, senti, mi tieni per favore per un paio di giorni questa cosa qua. Lui dice, cosa c'è in questa cosa? Cosa è in questa scatola? Te lo tengono, sicuro. Beh, ci sono un po' di gioielli di famiglia, sai, un po' di oro, un po' di orologi, Rolex, cioè, me li puoi tenere. Tengono. Te lo tengono. Te li puoi tenere sicuro, per una settimana? Te lo custodiscono, dai, sicuro. Su, dai. Lorenzo Lecco, vai. Ciao Giuseppe, sono Lambre. Allora, non mi trovo per niente d'accordo con te, con la tua affermazione. Oh, mitico Lambre Benedetto, se non sbaglio. Grande, Lambre Benedetto. Saluto, sì, sono. Sai che Lambre Benedetto, sai cosa ha fatto quest'estate, Davide? Ho visto un video a un certo punto, ma tu non sai un cazzo di quello che gira sulla rete. Cioè, tu non sai niente, sai solo di cose di politica. Allora, Lambre Benedetto, mitico Lambre Benedetto, pubblica delle cose sulla rete, è andato in giro e ha fatto un paragone tra la polizia. Albanese. Ma che è albanese? Milanese, Brianzolo, non so di dove cazzo. Di Bergamo ha fatto un paragone tra la pulizia delle stazioni svizzera, se non sbaglio, passato il confine 3 chilometri dopo, come la pulizia delle stazioni italiane. Sono cose da vedere interessanti. Vabbè, che cazzo vuoi, Lambre? Sì. Perché no, hai niente, che non ero. Allora, Giuseppe, sai che io sono sempre d'accordo con te, alcune volte. Ma non devi essere sempre d'accordo con me. Allora, non sono d'accordo sul discorso delle armi. Cioè, tu pensa, Giuseppe, se queste girassero le armi in Italia come in America, cioè tu pensa più armi per tutti, non mi interessa, io non ne faccio una questione di libertà, più armi per tutti, ovviamente con le leggi esistenti. Ma quelli che ti sono venuti fuori dalla radio, se quelli erano armati ti sparavano, Giuseppe. Ma che c'entra adesso questo? Allora, dai, su, armi per difesa personale è un conto, però prima, ma io di quello parlo, per difesa personale, mica armi così a cazzo di cane, dai, su, tutti gli scoppiati che ci sono bisogna stare attenti. Comunque ti saluto, un abbraccio, ciao, ciao Lambre, ciao ciao. Giusi Monza, vai Giusi, vai. Dimmi. Ciao, sono la telefono a Monza. Dimmi. Ascolta, io ho sentito benissimo, seguo sempre questa trasmissione. Vabbè, vai al sodo, vai. Di Trump. Ma perché mettere in gioco Trump. La promozione della figlia o la bocciatura? Ma ragazzi, sei come i napoletani che non capiscono quello che ho detto quando ho detto il salto là, il furto con l'asta o il furto dei Rolex, nuove discipline. Dai, su, è chiaramente un paradosso, come dice Parenzo, no? È chiaro che non si può scambiare. Però se fosse possibile lo farei. Ma un anno. No, scambia mia figlia bocciata un anno, vittoria di Trump. Cioè, prima media, bocciatura, pianti, lacrime, eccetera, poi uno recupera, però Trump vince le elezioni. Beh, amico mio, un parrucchino meraviglioso, armi per tutti, guerre in casini pazzeschi, il mondo che si rivolta, il mondo che cambia, una vera rivoluzione, tutti ci divertiamo. Parenzo, ma vuoi mettere, scusa, la Clinton, che tristezza. Cruciani, mi senti Cruciani? Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da... Il 56esimo Salone Nautico vi aspetta a Genova dal 20 al 25 settembre. La Zanzara. Certo che i napoletani sono veramente delle teste di cazzo. Come gli tocchi quella latrina di città, perché di latrina si parla, eh? Napoli bellissima, piena di storia, di cultura, però è tenuta veramente come un cesso rotto, con tutti i problemi che ha, impazziscono, danno di matto. Ma come cazzo pensano che si possano fare le Olimpiadi a Napoli? Ma a Napoli neanche la sagra della porchetta, ma per favore, dai! A Crucia, a Napoli si possono fare le camorriadi, non le Olimpiadi. Cruciani, se fanno le Olimpiadi a Napoli, si fregano pure gli atleti. Ciao! Le Olimpiadi a Napoli, cioè già si fottono tutto nelle città normali. Lì sì, si fottono anche un anello del logo. Ma dai! Crucia, la metà dei napoletani sa solo lamentarsi, ma se il 50% dei napoletani non si mette la cintura, non dà la precedenza, cioè proprio non è in grado di rispettare le regole basi della convivenza, ma figuriamoci una cazzo di Olimpiade, me da fanculo. Crucia, si uccesse Napoli. Le viscere, caro David, le viscere dell'Italia. Le viscere dell'Italia, capito? Ma... La senti le viscere l'abisso, dell'Italia? L'abisso, sento l'abisso. L'Italia l'abisso. Che pulsa, l'Italia che pulsa. Non l'Italia pulsa. Finta. Non l'Italia finta. Finta. Vabbè. Allora, l'altro giorno, a proposito sempre della vicenda di Napoli, delle Olimpiadi, di De Magistris che le vuole, ma De Magistris fa il suo mestiere, eh? De Magistris fa il, come dire, ogni politico vende, no? È normale che proponga Napoli per le Olimpiadi, non mi pare una cosa così strana. Non... Beh, anche coraggioso, bello, giusto per la sua città. Ma l'hai già detto, rinnovati. Ma questo allora, è De Maggio, giusto. Conduttore napoletano che conosco di Radio Kiss Kiss, mi ha invitato l'altro giorno. Cioè, mi ha invitato un sacco di radio, però ho preferito andare dal signor De Maggio che conosco. Poi scherzando, dice: ma che cosa significa la parola lota? No? Tutti mi insultano dicendo Sinalota. Ma non c'è stato nessun battibecco, inutile che ricamate sopra. Non abbiamo battibeccato per niente, non abbiamo discusso. Ma assolutamente. Mi ha spiegato il significato della lota, Sinalota. Che significa lota? Lota è proprio quando sei una cioè sei proprio una schifezza, peggio della schifezza. Sei peggio no. Di Higuain che è andata alla Juve, Cruciani, cioè si popa una lota. Questo è il senso. Allora, come si dice? Si popa una lota. Si nalota, Cruciani. Pensa agli ascoltatori come stanno godendo che io te lo sto dicendo. Te lo posso ridire? Cruciani, senti, Giuseppe, senti bene, perché questa se vuoi te la puoi giocare anche, ti do i miei diritti di immagine per Radio 24. No, dimmi. Da Radio Kiss Kiss, Cruciani, i napoletani ti dicono si nalota. Cretini, era uno scherzo, non c'è stato nessun battibecco, dai, su. Oh, Sgarbi è rimpazzito di nuovo sulla questione dei cosi, sulle indovina un po' su che cosa, Sgarbi, sulle? Su cose impazzito. Sulle, dai, indovina, prova a indovinare, sulle, pa. Sulle Olimpiadi. No, pa, sulle pa, no le palle, sulle pa. Sulle dai. Paleoliche, oh, le paleoliche, ecco, le sulle paleoliche. Paleoliche. Senti, è rimpazzito di nuovo sulle paleoliche. Periodicamente impazzisce sulle paleoliche. Devo dirti la verità, adesso non so i traffici, la mafia, queste cose qua. Io quando vedo recentemente, per esempio, quando sono andato nel Gargano, no? Ho visto queste immense praterie di paleoliche. A me non non mi stanno così sui coglioni. Ti piacciono anche diglielo, diglielo. No, ma dal punto di vista, ma sì, ma lo vedo, ma dal punto di vista estetico non mi sembra una cosa. Poi ovviamente dipende dai posti, dipende dai luoghi, eccetera, ma non mi sembra questa cosa orrenda. Cioè, non mi sembra questa cosa terribile. Poi al di là della questione della mafia, servono o non servono, probabilmente non servono una mazza. Ha ragione lui da questo punto di vista. Però allora esteticamente, se davvero non servono, no, servono molto poco rispetto alla, diciamo, al consumo energetico, però dal punto di vista estetico non sono malvagie, no? Cioè non sono una cosa brutta. Beh, non sono neanche bellissime, in Spagna è pieno, però sì, non sono bellissime. Non mi pare una cosa così, cioè un panorama. Sono belle anche torri, prova a vedere vicino a casa, che disastro. Ma non è che stanno vicino a casa, stanno in posti. No, ma anche vederle, apri anche da lontano, apri la finestra, vedi queste palle eoliche, non è il massimo, ma forse. Devo dirti, no, la verità, dipende, se sono a 10 metri, sì, ma se non sono... Non mi sanno mai posto il problema. Ma guardi, no? Osservi qualche cosa, oppure sì, ti occupi solamente del referendum del sì o del no. In Puglia, dove ho visto qualche parola, no, francamente non mi piacevano. Vabbè, Sgarbone, dai, su, enormi cazzi di 150 metri, così ha detto lui, non è che l'ho detto io, dai. Non bastasse l'orrore che hanno fatto sulla strada che va da Salemi a Mazara del Vallo, con enormi cazzi di 150 metri d'altezza e di 20 di diametro, pronti a continuare la distruzione già fatta. Qui però mi sa che c'è un po' di invidia, forse, no? C'è una sorta quasi di trasposizione, no? Non, no? Cioè, che ne so, vede questo questi... non credo. Non lo so, non credo, però lì c'è, diciamo, questi enormi cazzi lunghi, larghi. Non sono poi così larghe poi le paleoliche in realtà, eh? Beh, insomma, hanno un basamento piuttosto evidente, no? Vai ancora, vai. Eolico, basta. Tira fuori i coglioni e smetti di dare la sensazione di stare con i tuoi nemici. Questa è Crocetta, rivolto a Crocetta, il governatore della Sicilia. Devi bloccarli, è il tuo dovere, per salvare la tua regione, per impedire che la distruggano, per impedire che uccidano un'altra volta la Sicilia. Sei contro la mafia, devi essere contro l'eolico. La mafia è questo. Non puoi dire di essere contro la mafia se sopporti che il tuo paesaggio venga violato. Allora, ci siamo dimenticati per strada l'altro giorno un pezzo memorabile di Red Ronnie qui alla Zanzara. Parenzo, tu eri, mi sa che eri un po' sparito, non so se no, l'ho sentito Red Ronnie fino a un certo punto, poi abbiamo continuato e lui ha parlato del fatto dei pidocchi. Tua figlia ha mai avuto i pidocchi? All'asilo è capitato due o tre volte. Sì, bravo, sì, anche mia figlia ha avuto i pidocchi, assolutamente sì. Anche mia figlia abbiamo fatto un trattamento di sciampi particolari per estirparli. Beh, sì, normale, per ucciderli, normale, per mandarli sì via, ucciderli, poi abbiamo ucciderli, sterminarli, dillo. Beh, sterminarli. Che vuoi fare? Beh, Pidocchio, cosa vuoi fare? Vuoi dire scusi signor Pidocchio, per cortesia, può allontanarsi? Non è possibile dire però, scusi secondo, signor Pidocchio. Secondo il signor Red Ronnie, anche anche i Pidocchi hanno un'anima. Sì, ma ce l'avranno, l'anima degli mortacci loro, però buona, che anima hanno, ogni tanto ma che hai ma un che guizzo, discorso, ogni ma tanto che discorso hai un è guizzo. L'anima dei mortacci loro, avevo un Pidocchio, lo mando via, no, con l'acqua. Anche i Pidocchi vanno rispettati, amico mio, non ti puoi lasciare andare così. Anche i Pidocchi vanno rispettati, non puoi fare il ganassa anche con i Pidocchi. Non puoi fare l'assassino con i Pidocchi. Non puoi fare l'assassino. Per esempio, se adesso il signor, come si chiama, Vassallo, quello che è stato arrestato, no? Che sta in carcere, chissà se può ordinare qualche menù vegano in galera. No, per carità, la galera non la auguriamo a nessuno. Ma Vassallo, l'animalista, il nazi vegano che ha combattuto a lungo qui con me, alla Zanzara, anche con te, eccetera, quello che mi ha dato del pedofilo, eccetera, sta in carcere perché è accusato di stalking, giustamente, perché lo stalking è un reato grave. Il carcere significa che ha commesso delle cose, hanno in mano i giudici delle prove. Credo. Ora, per alcuni giorni starà in carcere, poi forse andrà ai domiciliari, eccetera, eccetera. Vorrei capire una cosa, numero uno, c'è un menù vegano in carcere, altrimenti quest'uomo mi entra in crisi, no? Mi preoccupo un po'. Ci sarà sicuro. Immagino di sì, che ci sia un menù vegetariano in carcere. Seconda cosa, se prende i pidocchi in carcere, perché sai, in carcere è un luogo un po' anche sporco, no? Cioè, non è un luogo pulitissimo, anche se devo dirti la verità, secondo me i carcerati sono molto puliti. Cioè, i carcerati tendono, non certo, tutti, alla pulizia assoluta. Certo. Cioè, la pulizia diventa quasi una fissazione per i carcerati. Cioè, lo so perché me l'hanno detto molti, me l'hanno confessato. Cioè, i carcerati hanno alcuni, molti anzi, una tale paura. Innanzitutto devono occupare il tempo, dunque esatto, la pulizia. Quindi cucinano e si lavano molto. Esatto. Però comunque i pidocchi possono scappare. In un ambiente come dove c'è tanta gente, i pidocchi possono arrivare, no? Allora, cosa fa il signor Vassallo se prende i pidocchi in carcere? Cosa fa? Li uccide, non li uccide? Red Ronnie dice che hanno un'anima e non bisogna ucciderli. Io parto da un presupposto che ogni animale ha degli occhi, una bocca, un cuore, un sangue che circola e dei sentimenti. Tutti. Paura. I pidocchi hanno paura. Certo, tutti gli animali. No, ma allora, di conseguenza, devi rispettare gli animali come rispetti gli esseri umani. Se hai i pidocchi in testa, che fai? Cioè, li ammazzi o no? Dimmi la verità, li ammazzi o no? I pidocchi in testa? No, no. Come non li ammazzi? Ma... Allora, Giancarlo Piacenza, vai. Ciao Cruciani. Dimmi, dimmi. Ascolta, io ti volevo darti un consiglio, visto a proposito del fatto che tu hai detto su Trump che se dovesse vincere tu faresti perdere un anno di scuola a tua figlia. Sì, io no, ti fare perdere significa, che ne so, no, portarla, no, cioè, sì, costringerla, no, eccetera. Se potessi fare uno scambio, ho detto, no? Sì, esatto. Io Renzo pensa che sia una porcheria tremenda, comunque. Beh, assoluta. Hai ragione. Anche solo pensarlo. Tu tempo fa avevi messo in vendita il tuo culo, giusto? Sì, ma per un'altra anche questione questa cosa qua. Già quello era già più nobile, però. No, ma ragazzi tu dici che dovrei scambiare la vittoria di Trump per la mia sodomizzazione, dici? Bravissimo. Anche questo. Sì, però è non molto è che si concreto. Possono riproporre le stesse cose, poi mi devono venire spontanee queste cose qua, devono essere cose in cui credo. Cioè, non è cose che mi suggerisci tu e dici, vabbè, adesso inventiamoci che se Trump vince io do via il culo. Perché tu l'avevi messo in vendita, chiaramente con che poi devolvevi in beneficenza o te li tenevi te i soldi, no, li tenevi te. Ma no, ma come me li tenevo io? 200.000? Beh, certo, chi se li teneva? Scusa, 200.000? Esatto. Abbi pazienza, che li davo in beneficenza. No, cioè, io odio la beneficenza. Così, oppure un'altra cosa legale, che ne so, magari... Ma sei in viva voce? Con che cazzo di mezzo sei? In viva voce? No, sono col telefono senza in viva voce. Sì, vabbè, lasciamo. Te lo giuro. Beh, sì. Adesso, chissà perché si sente benissimo adesso. Chissà perché miracolosamente si sente perché bene. Perché mi muovo. Sono ma stavi con l'auricolare, dai, cazzone, dillo, no. Come no? No? Comunque, guarda, non accetto questo scambio, cioè vittoria di Trump d'accordo. E il mio culo in cambio, perché abbiamo già dato su questo argomento, non è che possiamo tornare sempre sulla stessa cosa. Hai no? ragione. Devono venire spontanee queste cose, altrimenti sono finte. E io, Parenzo, non sono finto, capito? Purtroppo non sono finto. Il dramma è che lo faresti davvero. Se fingessi, non sentirei in maniera così forte, così drammatica la radio, vero. Capito? Il dramma vero è questo. Tu invece un po' fingi. No, qui sei vero, in altri contesti fingi. Vabbè, ragazzi, adesso non ci dilunghiamo su questi aspetti, tra poco. Crucia Sinalot. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Al 13 settembre, mentre voi lavorate, io sono ancora in spiaggia in Corsica. Una bella birra, un bel cannone e la zanzara. Beh, siamo top. Ciao maiali, soprattutto Parenzo. Allora ragazzi, ribadisco, abbiamo ricevuto oggi questa notizia fenomenale, fondamentale, direi anche consolatoria, Parenzo, uso un termine alto, insolito, sì. Insomma, per la zanzara. Se vuoi, di questo uomo comune, di questo gioielliere, di questo lavoratore italiano, non ha importanza, il quale, preso d'assalto dentro casa sua da un gruppo di rapinatori, reagisce, non volendolo nemmeno fare, peraltro, e uccide un rapinatore. Questo rapinatore, peraltro, mi dicono, fosse stato già condannato per omicidio, evaso due volte e condannato all'ergastolo, capito? Cioè non era proprio uno sì, così. E quindi? No, ma niente, ma dico così. Non è sicuramente allora, era un criminale. Tizio già condannato per omicidio, evaso due volte e condannato all'ergastolo. Lui spara, ci mettono dieci mesi per archiviare. Pochissimo, cioè, quindi giustizia veloce? Tantissimo. No, pochissimo, tantissimo. Comunque, rispetto ai tenere tempi della giustizia. Tenere sulle spine una persona, ma che tenere spine? Lì in bilico una persona. È morta una persona, comunque, sia esso un criminale, lo Stato deve verificare morto, perché è criminale. Morto. Sì, ma deve verificare perché assassino, condannato per omicidio, evaso due volte e condannato all'ergastolo, condannato all'ergastolo. Cioè, non è che era uno così, un buon tempone che passava di chi ha mai detto che un buon tempone? No, però per anche dire. I criminali più farabutti hanno diritto a sapere perché sono morti, no? Si è diritto, è dovere dello Stato verificare perché sono morti, se no è legge della giungla. Che e roba dice, è. Senza pistola sarei morto. Vabbè, senza questo. Pistola infatti è stato assolto. Era il 25 di quindi novembre. Quindi la giustizia ha funzionato. Era il 25 di novembre e consegnò alla Zanzara in esclusiva queste parole. questi ci ammazzavano perché volevano qualche cosa che io non avevo. Questi mi avrebbero ammazzato. Io ringrazio Dio di essere stato armato, perché se non ero armato io e mia famiglia eravamo morti. E devo dire la verità, ha fatto benissimo, ci ho ripensato anche, no, ci ho riflettuto, direi, ha fatto benissimo il signore dell'altro giorno, quel ragazzo, se le cose sono andate così, naturalmente, se non ha insistito sul corpo del marocchino, se non ha infierito, naturalmente, anche se uno poi gli può partire la brocca a un certo punto, no? Appunto. Quando ha visto la mano del tizio che andava nella borsetta della ragazza e ha reagito con un pugno, io devo dirti la verità, forse non sarei in grado, dunque ho una certa ammirazione per quelli che sono in grado, che hanno la prontezza di riflessi e anche la freddezza, ma per carità, ma questo è un altro discorso, di reagire con a pugni, prendendo a pugni. E no, tu hai detto ieri a quello che gli dava l'assistenza gratuita, è stato massacrato, quello fa propaganda, un consigliere regionale di Forza Italia che si offre, quello fa propaganda per i fattacci suoi, perché vuole fa che propaganda. Esiste un reato che si chiama eccesso colposo di legittima difesa, che, come hai ricordato anche questa volta, non è stato applicato perché la persona che ha ucciso quel criminale è stato giustamente assolto dopo solo 10 mesi. Quindi vedi che la giustizia funziona. Nel caso di questo ragazzo che ha massacrato di botte questo tentativo di furto, si deve verificare come sono andate le cose. Ma mi sembra una cosa talmente scontata che non c'entra il buonismo, è quasi banale da dire. In Venezuela come va? Tutto a posto con Pinochet? In Venezuela sì, ho parlato con Pinochet, sono contenti di essere stati citati, la famiglia Pinochet venezuelana da sempre, da generazioni, che se ne dica, perché abbiamo verificato col server di Casaleggio. Col server? Sì, risulta così, se tu vai su Google. Scusi, abbiamo... Grillo, avete, sì. Veramente avete è controllato? È normale, ma Casaleggio, è normale, abbiamo scritto Pinochet. E che Pinochet cosa è venuto fuori? Del Venezuela. Ma no! È come al no. solito, è un complotto. Ma no. Hanno fatto tutto per la Raggi, perché ogni volta che si parla di Raggi, Di Maio, la stampa li massacra. Ma no, ma non sanno niente. È scritto dappertutto nei libri di storia, l'abbiamo fatti ristampare online, è su Amazon. E chi l'ha detto? E chiede ai cileni se è vero. Ma no, ma telefono in Cile. Che vuol dire Cile? Se tu vedi Venezuela, metti Venezuela e scrivi Venezuela sulla rete, c'è scritto Venezuela. Guarda, qua sto facendo l'ora. Venezuela. Vale solo la rete. Venezuela, Che Pinochet. C'è scritto chi appena esce, ecco qua, vedi sulla rete, risultati relativi, cercavi, ma il computer no, di Casaleggio, c'è scritto, eccolo qua, Casaleggio, no, c'è scritto, guarda, notizie relative a Venezuela, prima notizia Di Maio svista su Facebook, cita Pinochet in Venezuela, vedi che è vero, è la prima voce, poi dice gaffe di Di Maio, vedi, tutto un complotto ADN Cronos, ora è evidente che è tutto fatto per distrarre dall'attenzione, ma non è vero, vera, ha scritto una da cazzata. Renzi che ha massacrato e ucciso un pensionato, è uscito da... questo non lo dice nessuno, non lo racconta, che ad esempio ha tolto le pensioni ai sessantenni, Renzi ha abolito tutto, non esistono più i salari, ma non è vero, il paese è fermo, Barisoni ad esempio è diventato vivace, cioè tutto contrario, e non raccontano le cose ad esempio, no, e quindi non ti dicono che il provvedimento, che il governo ha abolito i sindacati, ma non è lo vero, dice nessuno, non è vero. E tutti parlano del Venezuela, vabbè, e non sanno che Venezuela, Venezuela era del Pinochet, è Pinochet, Venezuela è la famiglia più importante di... ho sbagliato, Pinochet è in Venezuela, guarda, verificatelo nella Marco rete, da Brescia, c'è tutto. grazie Marco. Sì, buonasera Cruciani. Dimmi. Parenzo, io volevo intervenire proprio su quest'ultima notizia che hai appena citato, qui Rodolfo Codazzo, sì, Corazzo, sì, dimmi Corazzo, ho sentito in apertura uscendo dall'ufficio, bene, io sono perfettamente d'accordo con la tua posizione, ma perfettamente, sì. Nel senso che non è possibile che qualcuno ti entri in casa, sì, nella tua abitazione privata e non venga in quel momento ammazzato sul posto. Vabbè Marco, tu hai il via voce anche tu o no? No. Io purtroppo ho sentito l'intera trasmissione, anche giornale radio. No, ma le... hai qualcosa che non si sente bene, no? L'auricolare, che no, c'hai? Sono un cellulare, sono il mio cellulare, devo vabbè fare qualcosa, non si dici, hai ragione, uno deve poter sparare, amico mio, sono dalla parte tua. Il discorso, infatti ha sparato quello, non è che non ha sparato. Sì, ma io ora Ugo da Modena, che... ciao Marco, ho capito, Ugo da Modena, dai. Allora, Ugo, quello che ha difeso la fidanzata... Ragazzi, però parlatemi da telefoni normali, senza i viva voce, senza gli auricolari, se no mi incazzo e vi mando tutti però, a fare il culo, dai. Se no di voce non c'ho l'auricolare, porca miseria, c'ho un Nokia 900... Ma Nokia 900, ma comprate un telefono nuovo, no? Che cazzo so, cioè... ma scherzo, con tutto rispetto per la Nokia, adesso cosa no, ci rompono i coglioni. Io c'ho questo. Vabbè, Ugo, non ti sento, dai, forza, alza la voce, dai. Allora, alzo la voce. Niente, dai, non c'è niente da fare, Raffaele da Bergamo, dai, forza. Dai, non c'è. Silvio Salerno. Silvio, dimmi. No, niente, io, niente, una, niente, notizia, cosa, no, niente. Vabbè, una notizia vecchia, però l'ho risentita poco fa, parlando di fra quel battibecco, diciamo, tra De Luca e Di Maio. Io la prima cosa che ho fatto per quando diciamo così ha maltrattato un po' Di Maio, sono andato a vedere su Wikipedia la vita di De Luca, che cosa ha fatto fino a 30 anni. Su Wikipedia. Che ha fatto? Allora, veramente, sono andato a vedere, poi non ha fatto niente, si è laureato in filosofia, non c'è scritto niente di lavoro, sono andato a rivedere, non c'è scritto più, sono andato a vedere sopra il profilo, sul sito, penso sia ufficiale, De Luca, e praticamente si è... Ma perché cosa vuoi dire che ha fatto il mantenuto della politica? Cosa vuoi dire? Ha fatto politica per quasi voglio tutta la vita. Voglio dire che una persona che ha fatto più o meno le stesse cose non può criticare un altro. Non è che dice così, no, io ho fatto 3 imprese, ho costruito, ho studiato, ho preso 7 lauree. No, ha fatto una vita normale. Ragazzi, però non è che si può criticare qualcuno perché ha fatto politica. Cioè, non di che non stiamo parlando? Niente. Appunto. Cioè, che ha fatto? Non ha fatto niente, adesso non lo so che cosa ha fatto. Cioè il ragionamento, no, è proprio questo il ragionamento. Quello che mi ha dato, ma non fastidio. Cioè, io per me De Luca numero uno, io lo voto, io sono di Salerno, voto sicuramente. Però mi è un po' scaduto perché... Non lo so, mi aspettavo qualcosa di un po' più... Ragazzi, ma quella è poesia pura, cioè siamo al massimo, cioè è pura poesia, no, è pura teatro, è politica al massimo livello della sua teatralità, della sua... Cioè sì, è una roba fantastica, capito? È il numero uno, è il numero uno, è il governatore del mondo. Non esiste. Però... Vabbè, Silvio, ciao, mi ha rotto i coglioni. Ciao. Ugo da Modena, vai. Sta a sentire. Sì, guai adesso fai ancora il mio Lucchio 900, primo. Poi, secondo, quello che ha difeso la fidanzata e quello che ha sparato in casa sono due eroi. Eroi, sì. Va bene? Eroi, adesso lascia perdere la definizione eroi, dai. E quel pirlone di Parenzo, piacere, sai, Parenzo. Sai dove deve andare? Dove? Deve andare a fare delle pugnette. Vabbè, adesso queste pugnette magari le fa indipendentemente, indipendentemente dal fatto che io dici tu. Tutto bene a casa sua? Ma tutto bene a casa? Sua moglie sta bene, sì? Sta bene? Sta no, bene dico sua moglie, tua, sta bene? Hai capito, porca miseria. La tua, sta bene sua moglie, vero? Vabbè, garantista, non è che garantismo è una garantista, è un'offesa, dai, su. Imbecille. Ma per piacere lei, che salame di un salame, che non sa neanche come funziona in Italia. Parla semplicemente perché deve dare dell'ossigeno a quei poveri neuroni che nel cervello. Dai, ma dai, ma salame di un salame, su, vai a casa e bussa prima di tornare. Vabbè, Ugo, che cosa vuoi dire dopo, al di là del fatto che Parenzo... tua moglie si sta divertendo, dai, chiama a casa. Dai, comunque su. assolutamente uno deve essere cosciente che se entra in una proprietà privata e la viola può assolutamente... No, ma guarda, questo tizio qua, il mitico Corazzo, è venuto da noi subito dopo i fatti, il 25 di novembre, e ha detto chiaramente che senza la pistola in mano sarebbe morto. Dieci mesi sono troppi. E quel salame che anziché stare alla radio dovrebbe tornare a casa a vedere cosa fa sua moglie, anziché stare alla radio a dire scempiate. Ma chi, Ugo? Poveraccio Ugo, che ha detto? Ugo dovrebbe tornare a casa. Vabbè, Ugo, che cosa vuol dire sull'ambasciatore? Si diverte la moglie. Che cosa volevi dire? Leggo qua ambasciatore americano. Che cosa leggo qua ambasciatore americano? Anche sull'America vuol dire. Sono 60 anni che rompo i coglioni. Ecco, Ugo. Adesso lo fanno anche in diretta. Ugo, cioè, non lo so. Ugo versus l'ambasciatore americano per 60 anni e poi adesso ormai si può dire proprio qualunque cosa. Cioè, tu stai dicendo che deve farsi i cazzi suoi quando dice che dovrebbe vincere il sì al referendum. Stiamo parlando, allora. Tal Ugo, che ripeto, ma che c'entra? Stare... Perché non ha il diritto di criticare l'ambasciatore americano. Guarda Ugo. Che punto. A te ti fa schifo la gente comune. Ma no, la gente ti fa comune schifo no. La gente comune. Gli stupidi. Ti piacciono solo schifo. I politici, stupidi, la gente dei salotti. No, gli stupidi mi fanno schifo. Perché ha detto una cosa schifo, sacrosanta: no, che l'ambasciatore americano, a prescindere. Ugo, tal Ugo, che anziché, ripeto, andare di corsa a casa a vedere cosa perché fa perché la moglie, adesso... perché te lo dico io, anziché andare di corsa a casa, bussare, dire ecco amore, sono tornato. Dice no, ma torna tra 10 minuti, fai di ancora le tue scembiate alla radio che sto finendo una cosa qua intanto, anziché fare questo e andare immediatamente a casa. Ugo versus John Phillips, cioè siamo arrivati a questo. Ma siamo perché, arrivati qual è il a problema? Tal Ugo, ti fa schifo la gente, tal Ugo che diventa improvvisamente celebre grazie all'800 24 0024 ricordalo, sì, certo. Tal Ugo che anziché, ripeto, vabbè, andare abbiamo capito di corsa a casa perché la moglie non sta facendo il risotto con i funghi e che sta facendo Ugo, che sta facendo facendo tua moglie? Non sta facendo la moglie, non sta facendo questo. Ugo, che sta facendo tua moglie? Fidati di me che me ne intendo. La moglie non sta facendo questo. Che sta facendo tua moglie, Ugo? Non sta facendo il risotto. Vabbè, fallo rispondere. Ugo, Ugo invece interviene sull'ambasciatore americano. Che apparecchia c'è? Dai, ragazzi. Vabbè, ciao Ugo, ciao. Pensa, torna a casa. Eccoci qui, Matteo Salvini con noi, buonasera. Ben ritrovati a tutti, ecco. A te Beppe un po' meno a Parenzo, un saluto da Strasburgo. Come sta, andiamo, caro? come andiamo? Allora, mi raccomando a Strasburgo. Allora, io devo dire una cosa. Onorevole, a mangiare in un posto che si chiama Fossile. Ma è una vera vita che va a Strasburgo, ma io devi di te, dire, io scusa, sì. Non ho capito. Cioè, no, io devi di te dove andare a mangiare a Strasburgo. Fossile. Ma lo conosce benissimo, ci andava pure Temida, Fossile. Vuole. Esatto. Ma figuriamoci. Esatto. Cioè, comunque si mangia bene. Vabbè, Matteo, allora io voglio capire una cosa. Hai qualche parolina per l'ambasciatore americano che si è schierato in maniera abbastanza aperta all'ambasciatore ma americano? Ma io sto con Ugo. Stai con Ugo, non avevo dubbi. Ma è normale che sta con Ugo. Anche uno che secondo me non ha deciso tra il sì e no dovrebbe essere incazzato per il fatto che l'ambasciatore americano, che non è un americano qualunque che passa per strada. Quando la Chiesa interviene sulla legge 40, io che cosa dico? Scusami, quando la Chiesa interviene, io dico che è un'ingerenza, 40, io dico che è una vergogna. Tutti, non tu, tutti dicono, ma no, ma è legittimo che lo Stato estero, che la Chiesa dica quello. Beh, molti lo dicono, no? Gli vabbè, stessi che oggi criticano l'ambasciatore. L'ambasciata americana, che dovrebbe fare? Andarsene all'ambasciatore? No, ma rende un favore, rende un servizio agli italiani, perché nella sola giornata di oggi l'ambasciatore americano, che è portatore di chiari interessi, dice dovete votare sì. La banca internazionale d'affari JP Morgan dice votate sì. Goldman Sachs dice votate sì. Cioè gli affamatori, quelli che ci hanno ridotto in queste condizioni, dicono viva Renzi, votate sì. Va bene, se c'è qualcuno che ha qualche dubbio sul cioè pure gli americani sono affamatori, non ho capito. No, ma mi sembra che abbiano già dei loro problemi. Mi sembra Putin che Obama, cosa dice? Di votare sì o no? Presidente americano degli ultimi decenni lascia un'eredità di guerre in giro per il mondo e di disastri inenarrabili. Quindi fossi nell'ambasciatore americano sì, ma dovrebbe, è un'ingerenza che dovrebbe portare, che ne so, alle dimissioni dell'ambasciatore. Cioè l'ambasciatore ha fatto una cosa che non doveva fare, dovrebbe tornarsene a casa, dovrebbe essere sicuramente, sicuramente se la poteva risparmiare, e sicuramente un governo normale, a prescindere, ma questo anche se avesse detto dovete votare no. Perché altrimenti è una sciagura. No, ma su questo è vero. Fatti gli affari tuoi. Per quanto mi riguarda, parla per il tuo paese. Cioè sarebbe da mandare via, da richiamare, da mandare via, cioè sarebbe da fare qualcosa. Ma oppure vabbè, no? Mica il governo italiano che nomina gli ambasciatori, no, l'ha vabbè, nominato Obama. Chi si somiglia si piglia, evidentemente sono due piccioni, no, con la stessa vedi Parenzo, la differenza è questa. A me non me ne frega niente cosa dice, sì, no, eccetera eccetera, non me ne frega nulla. È una questione abbastanza elementare, cioè l'ambasciatore americano che rappresenta gli Stati Uniti, che dice che è meglio votare sì per la stabilità dell'Italia, a parte chi te l'ha detto, cioè che è così, cioè chi te l'ha detto che se vince no, il no, lui dice se vince il no ci può essere un caos per cui si dimette Renzi, no, l'Italia non ha governo, non lo so, ma chi se ne frega, ma fate gli affari tuoi. Sarebbe solo che sarebbe l'unico vabbè, aspetto è positivo l'opinione. Di questo questi può mesi essere di politica. Che abbia, può essere che abbiate ragione ma tutti voi. Ma questo è terrorismo. Sì. È lo stesso terrorismo che hanno fatto con gli inglesi, se vince la Brexit saranno sciagure. E adesso la Gran Bretagna quest'anno cresce dell'1,9%. Tu dici l'America fa terrorismo, l'America fa terrorismo nei confronti dell'Italia. No, questo ambasciatore parla a vanvera e fa terrorismo mediatico come lo fecero con gli inglesi, come lo stanno facendo con gli ungheresi. Oggi ma ti pare che il ministro degli esteri del Lussemburgo, cos'è il Lussemburgo, dov'è il Lussemburgo, chi rappresenta il Lussemburgo, dice bisognerebbe cacciare l'Ungheria dall'Unione Europea perché farà un referendum sugli immigrati. Ma no, fai il Lussemburgo e non rompere le palle, occupati del Lussemburgo, tu stai negli I Stati signori Uniti, non rompere del Lussemburgo. Le palle, occupati degli Stati Uniti. I signori del Lussemburgo, pare normale che il Lussemburgo possa avere voce in capitolo in generale, adesso dico, non dico a prescindere dall'Ungheria, dico ma in generale. Comunque lo vabbè, ricordo, senti, agli ascoltatori, perché domani mattina interviene vabbè, e io adesso interverrò dopo di lui, che noi siamo governati, noi 500 milioni di presunti cittadini europei siamo governati da un tizio del Lussemburgo. No, ma questo è per dirvi come c'entra? Siamo rappresentativi. Ma che c'è, non è che siamo governati? Beh, pro tempore, sì, pro tempore. E che la Commissione Europea chi è? Juncker. Cioè, ho il capito, signore, Juncker. Ma Juncker è un paese dell'Unione Europea, è il Lussemburgo. Juncker non mi piace il Lussemburgo. Un affamatore. Guerra al Lussemburgo. Salvini va con la Ruspa in Lussemburgo. È un affamatore, Juncker. Che cos'è Juncker? Un affamatore? No, era un paradiso paradiso fiscale, adesso che vengano a fare lezioni di quanto devono pagare le tasse gli italiani a che età si va in pensione. Uno che ha gestito un paese che era un paradiso fiscale come il Lussemburgo, mi sembra veramente una barzelletta che stiamo qua a discutere dell'anticipo pensionistico, cioè chi arriva a 64 anni deve fare tutto per andare in pensione. Ma è un paese dell'Unione Europea, il Lussemburgo. I badili, non è una roba normale, andare a fare il mutuo che vuol per dire? Andare in pensione a 64 anni. Come in giro con i badili, scusa, non ho capito. Cioè bisognerebbe ribellarsi. Noi percorreremo tutte le vie democratiche, pacifiche, immaginabili come Lega, ma io mi metto nei panni di un 64enne. Cioè che ha autorizzato, che dice, autorizzato in lavoro, a menare le mani, dice uno. No, questo mai, lunga vita la signora Fornero che è sempre nel cuore. La Fornero ovviamente adesso in questo momento la stanno ridimensionando. In democrazia il badile si chiama matita in cabina elettorale. Sì. Però qualcuno non si stupisca se poi qualcuno si incazza. Allora, c'è una cosa che voglio chiederti. Ovviamente penso che Salvini, Parenzo, sarà contento della soluzione del tizio della rapina. Di Rodolfo, no? Corazzo. Sì, tutti sono contenti. L'avevamo candidato anche. Ecco, però, come indipendente, cioè, in consiglio comunale. Ha fatto bene invece a Bologna quello che ha reagito con un pugno di fronte alla rapina che stava subendo la sua fidanzata, secondo ma te? Ma che c'entra? Ha fatto bene, sì o no? Questo voglio capire. Ma non, se capitasse a me farei altrettanto. Cioè, daresti un pugno in faccia a un rapinatore? Non conosco il ragazzo, non conosco la ragazza, non conosco la dinamica e non... Se è come si legge sul giornale, dove un tizio ha provato a scippare una ragazza e un amico, un fidanzato, non so chi, reagendo, lo insegue e lo prende a pugni, ha fatto solo bene. Ha fatto bene. Dunque non andrebbe nemmeno... Tu cosa avresti fatto? No, ma io ho detto oggi, io non avrei... Dicendo, no. Prego, si accomodi pure, anzi, io ho detto, ci vuole anche il mio di portafoglio. Io ho detto, non avrei probabilmente il coraggio di farlo, perché magari avrei paura di una reazione ancora più forte da parte di quella persona. Tira fuori il coltello, tira fuori però, la pistola. Però, devo dire la verità, che se però ti... Io rispetto, non conoscendo la situazione, uno che ha il coraggio... di muoversi per difendere una signorina. Ma una specie di eroe, no? Come si potrebbe dire, no? Una specie di eroe, no? Non lo conosco, non farmi dare dell'eroe. È uno che ha dimostrato coraggio. Magari anch'io, se mi capitasse, ovviamente non starei a guardare. E ripeto, se il Parlamento avesse fatto quello che da due anni la Lega chiede, avesse cancellato però l'articolo però per esempio quello è stato penale, però quello è stato assolto, di eccesso di legittima difesa. Secondo te non andava nemmeno... Non andava nemmeno, no, non bisognava aspettare 11 di Bologna, mesi. Che ha difeso la ragazza, adesso è stato identificato. Beh, lesioni aggravate, però, l'accusa è lesione. L'accusa è lesione aggravata. Ma se tu mi rapini, cosa devo fare? Devo sorriderti? È un principio di normalità, di serenità. No, ma infatti, fatti telefonare senza dare il nome in diretta a uno dei troppi carabinieri o poliziotti che sono sotto inchiesta perché hanno usato un'arma per difendere la vita loro di un loro collega, ferendo o uccidendo un rapinatore, e sono sotto inchiesta e si pagano l'avvocato da mesi. Ma adesso vediamo, procuriamoci dei numeri di telefono. Allora, fermi tutti, pubblicità, poi torniamo. Fermo lì, fermi lì. Quello che dice Quirico è verissimo. Anch'io sono camionista, è pieno di froci. La Zanzara. Ragazzi, io non riesco a capire lo stupore. Sì, vabbè, l'ho detta grossa. Ho messo in campo mia figlia. Ecco, l'hai detta grossa. Sì, ma l'ho detta grossa, ma è un paradosso, caro Parenzo. È una. Non l'hai detta grossa, dire. Hai detto una sciocchezza. Allora, Matteo, io ho detto una cosa. Metti in ballo te stesso. Ho detto che la mia unica preoccupazione qui, il mio unico sogno, la mia unica ambizione da qui ai prossimi mesi non è la radio, la vita. L'amore, eccetera. Ecco, già questo, ma voglio una sola cosa lunga, con tutto il cuore: la vittoria di Donald Trump. Questo è il mio unico obiettivo. No, ma ha detto di peggio, caro Salvini. Aspetta, allora, ho detto l'unica cosa che sogno, che mi piacerebbe veramente più di ogni altra cosa che accadesse, più di un amore, è la vittoria di Trump, di Donald Trump, il trionfo dell'uomo col parrucchino, alla faccia di tutti quelli che gli dicono le peggio cose, razzista, fascista, maschilista, eccetera. Sarebbe una cosa da godimento puro. Da malati di mente, ma già che questo. Da malati di mente, una persona questo, normale, però, cittadino normale, non sono uno con la puzza sotto il naso. Per me è da malato di mente, però già questo. Ho aggiunto, caro Matteo, ho aggiunto questa cosa. Ho aggiunto, pur di farvi. Posso dire che No, no, non è esattamente il mio primo pensiero alla mattina. Vabbè, d'accordo, ecco, quello. È già più sano, Salvini. Anch'io tifo Trump tutta la vita, perché no, sarebbe... Vabbè, questo era diciamo arcinoto. Trump nomina ambasciatori, sì, che, sì, che non rompono le palle al prossimo. Sicuramente, ha già detto, gli Stati Uniti faranno quello che interessa agli Stati Uniti, non andranno a fare guerre a caso in giro per il mondo, esportare democrazie, esportare... Vabbè, tu che cosa daresti? Che cosa daresti in cambio della vittoria di Trump? Io ho detto, io per esempio... No. Ma no, ma che ne so, cioè dai, insomma, qualcosa bisogna dire, nel senso che io... Per noi sarebbe un vantaggio, come paese, come... Cioè per l'Italia sarebbe un vantaggio. Pace nel mondo sarebbe sicuramente un vantaggio. Vabbè, ma che ne sappiamo, quello non lo possiamo... Non sono le elezioni per cui ti fare, perché nell'arco di qualche mese, Beppe, aggiungi a soddisfazione, ci sono il 18 settembre, domenica, le elezioni politiche in Russia. Vabbè, quello... E Russia quello inizia il partito di Putin. Elezioni. E primo partito. Ma, perché credo, elezioni ma, democratiche, in Russia sì, votano. Sì, ci sono gli osservatori. Però insomma, ci sono gli osservatori per Putin perché sono più furbi di altri, a Parenzo non piace, ma in Russia evidentemente piace così. Ricordo che in Russia, se sei un libero professionista, un imprenditore, fatturi meno di 4 milioni di euro, paghi il 7%. Vabbè, io comunque ho detto una cosa molto semplice, ho detto che poi si vota in Austria, si vota in Ungheria, se vabbè, poi ma si vota la cosa, per Valetta, la cosa, si vota in Germania. La cosa importante, la cosa importante è che vinca Donald, l'uomo col parrucchino. Se Trump, che fai tu? Che una bella birra media. Vabbè, ma birra media, che cos'è, che ci fai con la birra media? Anche Parenzo, quella te la fai lo stesso, la birra media. Comunque io ho detto no, perché poi la Clinton è sostenuta dal peggio del peggio del peggio, il principale finanziatore è il signor George Soros. Vabbè, ma pure gli altri, pure gli altri. Dov'è il problema? È quello che ha fatto cadere, ma è quello che ha fatto ha fatto, ha finanziato il dissenso in ex Unione Sovietica, è quello beh, che ragazzi, ha finanziato. Non parliamo di cose troppo serie, una cosa fondamentale. Io ho detto in cambio di uno dei più grandi speculatori, ma che speculatore, ma quale speculatore Soros, anzi un filantropo vero, chi, un vero filantropo è Soros, altro che... Allora, un vero filantropo. Un dice vero che un filantropo che ha finanziato il dissenso nei paesi comunisti. Che portò a casa miliardi su miliardi quando la lira venne svalutata. Vabbè, ha fatto il suo lavoro, che doveva fare? Che sia uno speculatore non c'è dubbio. Ha fatto il suo lavoro, che doveva fare? È un grande finanziatore del dissenso anticomunista, ad esempio, in Ungheria è stato. E come che c'entra? Sì, è dell'invasione clandestina in corso. Il più grande finanziatore del fatto che l'immigrazione sia una bella cosa. Non deve dargli la medaglia al merito a Soros. La medaglia. Vabbè, ragazzi, non parliamo di Soros, che non conosce nessuno. La cosa fondamentale è una. Io ho detto... Vabbè, comunque anch'io tifo Trump tutta la vita. Il cambio di Trump, che la Clinton stia bene, per carità di Dio, però, ma che ne so, magari ti auguri una malattia alla Clinton, che ne so, cioè, no io ho detto una cosa, Trump darei in cambio la bocciatura di mia figlia a scuola, cioè mia figlia bocciata a scuola, siamo alla follia, capito? In cambio della vittoria di Trump è la pazzia, perché no incredibile, ma non succede nulla un anno, ma fallo su di te, sulla tua vita magra. Sarebbe già drammatico se portasse a casa un 5, altro che bocciatura, quindi brava. Una settimana di lutto, quindi non farmici pensare. Senti, ma è vero che gli immigrati dichiarano di essere gay per farsi accogliere? Ma proprio la voglia. Addirittura. Ma cosa dice? Nel 32% di protezioni umanitarie temporanee a vario titolo, che in Italia non si negano a nessuno. C'è gente che dice non sto bene, tirando fuori malattie varie ed eventuali. No, ma c'è gente che dice sono gay, dunque sono perseguitato, invece non è vero per niente, naturalmente sono tutti etero. Chiedi tutti agli etero, operatori che tutti lavorano etero. Nelle strutture, sono alcune centinaia. Sono tutti gay quelli che sbagliano. Beh, è vero, c'è gente che dice è facile dire sono gay, non è che c'è la prova. Dite? Che fanno l'esplorazione dell'ano per sapere se sono gay o no? Basta dire sono gay, vengo dal Gambia e sono perseguitato. In realtà poi non sono gay. Dai, su. Guarda, nei primi 8 mesi di quest'anno hanno esaminato 56.000 domande di asilo politico, ne sono state accolte solo 3.000. Altre 10.000 sono state accettate temporaneamente per le motivazioni che tu dicevi. Anche per questo, perché ci siano perché sono gay, perché c'ho il morbillo, perché non. Guarda, sono cristiano quando il questi i gay, quelli perseguitati per davvero dovrebbero incazzarsi come bestie. Senti, tu che cosa faresti? Assolutamente sì. Tu che cosa faresti? Ma ad esempio in Arabia Saudita per i gay c'è la pena di morte, quindi il PD che si occupa di matrimoni gay poi vuole le moschee finanziate dall'Arabia Saudita. È in confusione mentale, perché fa sposare i gay che poi dovrebbero essere messi a morte secondo la cultura di quel paese. Senti un attimo una cosa, ma tu le Olimpiadi, no, io chiedo, dovrebbero arrabbiarsi gli omosessuali veri, dovrebbero senti arrabbiarsi, senti una cosa, gli veri. Una cosa, ma io chiedo al telefono azzurro di intervenire per la figlia di Cruciani, non è possibile. Il sindaco la messa nelle mani di Trump, il sindaco De Magistris, no, ma che c'entra, poi non è che è una cosa fattibile questa cosa qua. Io, se ma fosse anche possibile solo pensarlo, ma il telefono azzurro dov'è, ma il dov'è sindaco... la bocciatura, no, però dai, un la bocciatura metterei sul piatto la retrocessione in B del Milan. Io sarei tanto, ormai non siamo questa lontani. È buona, però questa è buona, sì, cioè in cambio della vittoria di Trump, anche se il livello della nostra squadra è quello, diciamo, che pur di rifondare, così se andiamo in B ripartiamo dai giovani con una roba bella pulita. Ecco, se vincono Trump, Putin, la Le Pen, fermiamoci a Trump, gli altri non me ne frega niente. Senti, io vado a vedermi in Milan in B. Senti, ma un'ultima cosa, De Magistris vorrebbe le Olimpiadi a Napoli nel 2028. Secondo io ho detto che è una follia fare le Olimpiadi a Napoli nel 2028. Tu che dici? Perché ridi? Non ho capito. No, perché ti ho sentito nelle sere scorse, ma di solito a Napoli c'è un grande senso dell'umorismo, tranne quando tiri in ballo la loro... Questo non c'è dubbio, questo è vero, questo è vero. Ma guarda, io sono contro le Olimpiadi anche a Milano, vedi te, figurati. No, io a Milano forse, no, sì, io in generale sono contro, pure io, però a Milano non lo so. Comunque a Napoli sono in grado o no di fare le Olimpiadi? Diciamo la verità, dai. Ma io penso che in Italia in questo momento non sia il momento dei grandi eventi. Però... se vuoi farti attaccare ancora di più, parlavo con un avvocato ieri l'altro... che mi spiegava di una professione che c'è solo a Napoli. Che cos'è? Al di là del fatto che il 90% dei napoletani evidentemente sono persone per bene. Qual è il finto testimone di finto incidente stradale. Ma mica una cosa nuova. Spiegavano che Napoli è la capitale europea dei finti incidenti stradali, e se tu vai in tribunale a Napoli c'è la schiera di finti testimoni che si offrono dietro tariffa, ovviamente, per testimoniare in qualsiasi tipo di processo civile, penale, amministrativo. Questa è buona, questa è buona. Cioè, i finti testimoni. Non è male, finti testimoni. Cioè, ma secondo te la città, diciamo, del falso, del furto, eccetera, può organizzare le Olimpiadi? Diciamo una cosa. In questo momento nessuna città non ti vuoi esporre contro Napoli, ho capito. Organizzi le Olimpiadi. Non ti vuoi fare, non ti vuoi fare massacrare come hanno massacrato me. Vabbè, ciao Matteo, ciao. Ascolto il podcast della Zanzara per le calli di Venezia e godo come un riccio. La Zanzara. Hey Cruciani, what the fuck? My Italian boyfriend is ruining my life and he listens to your fucking radio show all day in a 5000 decibel sound and my life is fucking screwed. Allora, a proposito di Napoli, caro David, c'è un tizio che mi rompe i coglioni da giorni, come tanti ovviamente. Ti rompe le scatole perché? No, ma tu non hai idea di che cosa scrive. Scrive delle cose terribili, cioè su di me, su mia madre. Denuncia tutto? No, ma non denuncio nessuno. Denuncia tutto alla polizia, no. Vedrai che smettono di fare i ganassa questi qua. Allora, oggi ho provato a chiamarlo, mi sono rotto i coglioni. Ho detto, siccome ha lasciato il suo numero di telefono, ho detto, sfogati, coglione. Senti che succede. Senti che cosa è venuto fuori. Senti, è forte, è molto forte, Bambini, tappate le orecchie ai bambini, tappate le orecchie a tutti. Sentite. Pronto? Dai, vomita la tua merda, dai. Pronto? Forza, prendi coraggio, vomita la tua merda, dai. Tu stava mai, coglione. Vomita la tua merda, sei coraggio, vai. Figlio di puttana. Oh, mamma mia, questo sai dire, figlio di puttana e basta. Gode degli ultimi momenti. Sai, ma gli ultimi momenti perché? Perché morirò secondo te? Mi minacci? Che cos'è? Ma c'è un napoletano ovunque. Qualche napoletano ti spacca la testa prima o poi. Ah, sei sicuro di questo? Ma è sicurissimo, figlio di puttana. Che cosa hai fatto? Un comando? Cosa stai organizzando? E questo, caro David, tanto per farti capire, denunzialo subito, il clima, subito. No? Il clima. È ma solo... il clima, questa gente qua la si combatte denunziando tutto. Aspetta. Gli arriva i poliziotti, ragazzi, a casa, dice, dottor, chi è? Sì. È la polizia, amico mio. Allora, sia chiaro, io ho espresso solo, a modo mio naturalmente, alcune opinioni sulle Olimpiadi a Napoli. Opinioni, chiaro? Opinioni. Poi prendetele come volete. provocazioni, non mi interessa la definizione che date, non me ne è mai fregato nulla delle definizioni, nulla, non sono provocazioni, sono opinioni. E per fortuna ho tanta gente da Napoli che mi scrive dicendo: scusaci per questi coglioni, per questi imbecilli che continuano a minacciarti, continuano a dire le cose contro di te, eccetera eccetera, perché hai ragione tu. Lo sappiamo che le Olimpiadi non le possiamo organizzare. Io in fondo ho detto questo. Poi certo ho usato l'ironia sull'asta, no? Che cavolo ho detto, manco mi ricordo, cioè, la corsa al furto del Rolex. Sono le discipline olimpiche. Ma abbiamo già detto ieri che Crozza fece le stesse battute, le stesse, come dire, ironie su Roma, e nessuno dice nulla. Se attacchi Roma dicendo che è una latrina, una monnezza, non ci sono i romani, sì, che certo ti minacciano. A Napoli invece sì. Significherà qualcosa questo o no? Ancora, ancora il signore che vomita merda. Senti, senti. Ah, figlio di puttana. Dai, continua, continua. Ma vai, dove continua. Ci vuoi, figlio di puttana? Ma io non vedo nessuno, io lavoro alla radio. Tu che lavoro fai? Tu che sei, ma che lavoro fa? Tua mamma con la puttana che fa? No, mia madre, ma per carità. Mia madre è una casalinga in pensione. Luciani, tu sei per fare una brutta fine, ti conviene denunciare tutti quanti e spendere soldi in avvocato. Ah, hai capito, figlio di puttana? Ma io a te ti denuncio sicuro, quello non c'è, ma dubbio. Ma fai quello che vuoi, figlio di puttana, a me non fai paura, hai capito? Ma no, io ti denuncio. Coccione, non sai nemmeno chi sono, mio padre è giudice, ti vuoi, che ti fa? Ah, tuo padre è giudice, tuo padre è giudice. Coglione, figlio di puttana, fatti uno shampoo che puzzi di me. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Lo shampoo me ne faccio pochi io di shampoo. Il padre è anche giudice, capito? Ma mio padre non lo so. È giudice. Non so se questo è... Ma perché tu hai l'idea che i figli dei giudici sono tutti dei distinti, no, signori? No, però come l'ha detto... Cioè, non ho capito, no, perché no? Distinti, mio no, padre ma... è un giudice. Non sai mi pare arroganza? Che abbia... Mio padre fa il giudice. No, ma non mi pare che abbia assorbito il principio della legalità, no, questo giovanotto. Questo volevo ma dire. Ma prosegue questo... ancora la gentile telefonata. Questo giurista fine... Tanto coglione, questa è una scheda rubata, non so nemmeno chi cazzo sono. Dammi un contatto e ci vediamo pure subito, vai. Ma ci vediamo subito dove? Vai, a chi denunci che questa è una scheda falsa? Io faccio la radio, non so. Ma io faccio la radio, non faccio. Sì, va bene, ma tranquillamente. Ma io faccio la radio. Sai? Sì, sì, va bene. Sì, sì. Io coglione. Sì, sì, ma io faccio la radio, non faccio il delinquente, capito? Un'altra ma, cosa. Ma io sono delinquente, stai accolto, sai? Ma lo so che sei un delinquente, per, accolto, per questo ti chiamo, per questo ti chiamo, perché sei un delinquente. Che parli a fare italiano, coglione? No, ma parlo italiano, ma perché io parlo italiano. Con tua mamma, sì, ma poi traduciamo tutto, non ti preoccupare, c'è la traduzione simultanea dal napoletano all'italiano. Le Olimpiadi dovrebbero organizzarle nel luogo in cui abita questo signore. Beh, questo non c'entra. Beh, ma c'entra anche questo, amico mio. C'entra anche questo. Questo signore testé ascoltato. Ovviamente consegnerò il numero nelle mani di alcuni signori. Ecco, questo. Gente delle istituzioni. Gente delle istituzioni. Appunto, questo volevo dire. Persone, esatto, questo. In divisa oppure in borghese. Ecco, che esatto, si occupa, perché ha detto che è una scheda rubata. Cioè, questa è una scheda, sì, rubata. Sì, appunto, questo mi fa sospettare che non sia figlio di un magistrato. O se lo è, ma perché? Perché i figli di magistrati devono essere per forza delle brave persone? Ma chi ne ha? Perché forse hanno respirato una concezione del diritto diverso. Poi se la prende con quella poveraccia di mia madre, che c'entra mia madre? Poi buchina, cosa, mamma, la puttana, ma che vuol dire mia madre? Non c'entra nulla. Perché se la prendono sempre con le madri? Poi ti giuro, in tutti gli insulti che ho ricevuto in questi giorni, che mi fanno ovviamente da un certo punto di vista un po' anche godere, lo sai, mi perché conosci, no? Perché sei matto? No, perché mi fanno godere perché sento l'abisso dell'umanità. Allora, la rabbia, senti, ti piace spesso la rabbia. C'è il riferimento alla madre, che invece dovrebbe essere a Napoli una cosa, no? Cioè una cosa sacra da un certo punto di vista. Invece sì, sacra per loro, certo. No, ma è incredibile questa cosa qua. Se la pigliano con le madri, ma perché se la pigliano con le madri? È un vecchio insulto che si usava fin dalle elementari, quando sì, tu volevi ferire a uno nel profondo. E mamma, esatto, gli ma c'è ancora qualcosa di questo coglione o no? C'è ancora qualcosa? Proprio che un'antologia hai fatto, un florilegio. Sentiamo, un'antologia di questi. Pronto? Sì, scusa, tuo padre chi è esattamente? Mio padre? Sì. Ma sei Gianni? Sei tu mio padre? Sì, sì, sì, sì. Ma chi è tuo padre, il magistrato? No, chi è? Non sei tu mio padre, io so così. Sì. Mio padre è un coglione. Ripassami. Mio padre è un coglione, sì, mio padre. Sì, ripassami il fenomeno di prima, va. Ma che vuoi, scusa? Ripassami il fenomeno di prima, spiritoso, ripassami il fenomeno di prima che minaccia al telefono. Ripassami. Ripassami il fenomeno. Ripassami il fenomeno di prima, dai. Quando passi di qua? No, ma io non devo passare, io lavoro alla radio, lavoro lontano. Ma ripassami il fenomeno di prima, spiritoso, ripassami il fenomeno di prima. Vediamo un po' se. Vabbè, quando passi di qua magari ci vediamo. Ma chi dai. Se ne frega? Ma io mica faccio le gite a Napoli così. Poi dicono sempre vieni qua, ma che vengo dove? Che ma bene. Vieni dove? A fare il confronto con chi? Con cosa? No, ma che confronto poi soprattutto? No, ma poi di parlare di che? Cioè, non si capisce a parlare di che. Vabbè, dai. Più Natania, meno Parenzo. Più Natania, meno Parenzo. Traffico. La Zanzara. Ragazzi, è semplice, se volete dire quanto sono sporchi neri o quanto rubano i rom o volete mandare a cagare Parenzo in diretta 800240024, se invece siete persone più normali, cioè pisciate nel lavandino, andate a mignotte o volete mandare a cagare Parenzo in differita 393-717-1701, siamo al top. Allora, caro David, dopo diversi mesi, credo li abbia passati con una certa attenzione, con una certa preoccupazione. Sì. Torna ai nostri microfoni proprio nel giorno, diciamo, del suo proscioglimento, come dire, della sua archiviazione, che molti davano per scontata, ma non c'è mai nulla di scontato con la giustizia italiana. Ripeto, si può svegliare un giudice una mattina e pensare che tu non dovevi sparare, dovevi usare più prudenza. Riconosciamo oggi alla giustizia velocità, tempestività. No, velocità anche, non credo. Velocità e anche non credo. Una sentenza equa che rimette a posto le cose, ma doveroso indagare. Un'archiviazione. Doveroso indagare. No, doveroso. Allora, doveroso. Rodolfo Corazzo è di nuovo con noi dopo tanti mesi. Buonasera. Ecco. Ciao, Rodolfo. Ciao, ciao. Sì, ciao, ciao. Ciao. Allora, ecco. Come ti senti oggi? Ma giornata bella. Diciamo, è finito un incubo. Sì. Non perché era un incubo vero, però la preoccupazione, la psicosi che poteva cambiare, non so, non, che adesso ho trovato chissà cosa, che non c'è niente di strano, perché quella è la verità. Sì. È stata provata da tutte le prove, dal RIS, sì, dall'autopsia e tutto, quindi ero tranquillo, però psicologicamente ero... come hai passato questi 10 mesi? Ecco, come hai passato? Guarda, ovviamente è dura passare tutto. In famiglia tranquillità non ce n'è, però pian piano stiamo tornando alla normalità. Anche perché c'erano delle persone ancora, ci sono delle persone ancora latitanti. Sì, ci sono ancora due latitanti, sono in giro non si sa dove, non li hanno identificati perché la mascherati ovviamente non ha lasciato tracce né niente. La procura però è tranquilla. Non, cioè avete paura, voi hai ancora paura, la tua famiglia ha paura? Ma non ho paura, sono preoccupato, preoccupazione è normale che ci sia paura, no, perché non ha senso, cioè, puoi vivere con la paura. Beh, hai ammazzato una persona, magari qualcuno si vuole vendicare, no? Cioè... è un problema loro, non mio, io non l'ho invitato, non ho voluto, volevo che andassero via, se andavano via nessuno faceva niente. Sì, ma me lo ricordo, mi ricordo i dettagli. Quindi di quella vicenda. Non vado a fare polemica, io non ho fatto, ho difeso la mia famiglia, quindi sono qua. Se lo rifaresti altre 100 volte? 1000 volte. Mia figlia e mia moglie sono più importanti di tutti. No, ma cioè, questo è fondamentale. Cioè, ricordiamo che la figlia di 11 anni, la figlia, se non sbaglio, ricordami, Rodolfo. 10 anni. La tua figlia di 10 anni fu addirittura a un certo punto presa, no? Presa da... Sì, la portarono su per fargli vedere se trovava, cioè per chiedere dove aveva messo i soldi, dove nascondeva i soldi. Ma lei, terrorizzata, annichito, ha fatto così con la testa. L'hanno portata di sopra, sì, e in quel momento il terrore, quegli attimi di terrore, invece è sceso subito tranquillamente senza problemi. Allora, ricordiamo anche una cosa, che il tizio che è morto non era un passante, cioè non era un signore, era un pregiudicato evaso, credo anche assassino. Due volte, un assassino, lui pregiudicato, ergastolano, evaso dal caso di massa sicurezza di Palermo e di Parma. Hai provi oggi, a tanti mesi di distanza, provi pietà per quel morto oppure non ha nessun rimorso di averlo fatto? Ma guarda, io ho avuto, mi ha contattato la sorella di questo tizio, sempre via messaggi, non ho chiesto scusa, ho chiesto solo di perdonare il mio gesto, ma l'ho fatto solo per difendere la mia famiglia. No, ma questo è interessante. Cioè, hai avuto uno scambio di messaggi con la sorella del tizio che è albanese? Sì, che sì, cos'è? Sì, albanese, sì. È l'albanese, ma chi è che ha iniziato, diciamo, questo scambio di messaggi? No, mi ha rintracciato su Facebook il message. Sì. Mi ha mandato un messaggio e sono la sorella di, volevo sapere com'era, volevo chiedermi perdono per nome della mia famiglia. Gli ho detto, guarda, non è un problema, io non ho chiesto perdono, ho chiesto solo di capire il mio gesto, perché l'ho fatto solo per difendere la mia famiglia. Ma mi sei sembrava tu... doveroso farlo, perché... Oh, certo, cioè non hai chiesto perdono alla famiglia della persona che hai ucciso, naturalmente, perché non devi chiedere perdono, giusto? No, ho chiesto solo comprensione, perché sì, è stato un gesto ovviamente di difesa, non volevo fare del male a nessuno. Però lo rifaresti, assolutamente. Sicuramente, perché per difendere mia figlia io sfido chiunque a non farlo. Hai ancora la pistola, la pistola a casa? Sì, sì, sempre, me le ha lasciate tutte senza problemi. Mi ha ridato oggi tutte le armi che mi ho sequestrato. Ah, perché comunque per 10 mesi tu sei stato senza, o hai conservato? No, me l'hanno beh, io posso darmi le armi regolarmente. Ah, no, giù. No, avevo le armi regolarmente comprate, ma io posto d'armi l'ho sempre avuto. No, ma l'hanno sospeso in questi mesi, oppure ce l'avevo? No, nessuna sospensione. Io il giorno dopo avevo già. Strano questo. No, vabbè, perché è strano, evidentemente avevano già le idee chiare. Poi appunto, vedi che funziona la giustizia. Ecco, allora, secondo te bene, la giustizia ha funzionato oppure 10 mesi sono stati troppi? Dimmelo sinceramente. No, 10 mesi è il tempo tecnico, sono 6 mesi di indagini, poi è capitato luglio-agosto, ovviamente. Purtroppo la giustizia è velocissima, è stata. Secondo me non è stata così veloce, devo dire, 10 mesi, uno resta appeso 10 mesi a una situazione già chiara. Magari si sveglia un giudice la mattina e dice no, quello là ha sparato, però poteva evitarlo. Scusami, dai, se c'è un morto, lo sta dicendo anche lui, se c'è un morto di mezzo, è evidente che uno deve capire la dinamica di come è avvenuto. E poi, giustamente, il magistrato ha deciso che non che ha fatto la legittima difesa. Che e dici quindi... tu, Rodolfo? Che dici? Ma guarda, è evidente. Questo era evidente dall'inizio, e infatti il magistrato abbiamo parlato subito, era evidente dall'inizio. Per procedura ha dovuto darmi l'avviso di garanzia per poter accedere ai rapidi irripetibili, che era l'autopsia e diciamo gli esami balistici delle armi. Sì. L'hanno fatto, io con loro ho già parlato chiaro, il dottor Nobili mi ha detto, Corazzo, lei stia tranquillo, non ha nessun problema, è procedura legale, non si preoccupi che non ci sono problemi per lei, non c'è nessuna conseguenza. Secondo te, un'ultima cosa, Rodolfo, poi ti lascio, ti lascio alla tua famiglia, alla tua serata, eccetera, eccetera. Sì. Un italiano, se può, si deve armare, secondo te? Dimmelo... Guarda, io ho parlato fino all'inizio in questi termini, io se non avessi avuto la pistola sarei morto, mia famiglia sarebbe stata... sicuramente ci avrebbero uccisi tutti e tre, perché erano talmente decisi e talmente cattivi in quel frangente. Beh, quello è un ergastolano assassino, e quindi non omicida. Ha niente da perdere, ecco, lui voleva i soldi che non avevo, non potevo dargli, di conseguenza era quella. Sì. Quindi il problema non è tanto l'arma, io ho sempre detto che dai in mano una macchina a un ubriaco o un tossicodipendente fa più danno che una pistola. La pistola è un pezzo di ferro, da solo non fa nessun danno. Chi l'ha in mano ovviamente deve avere caratteristiche, di avere intelligenza, deve fare degli questo esami. Non c'è dubbio, però secondo te andrebbe facilitato il possesso dell'arma per gli italiani? Cioè ma guarda che adesso non è che sia impossibile. Uno è tu sei un gioielliere, è un altro discorso. Ma No, guarda, l'arma di tensione in casa la puoi avere chiunque, fa il tirovolo, fai i suoi esami, non c'è nessun problema. Se sei censurato e se non dimentichi te la puoi stare dando tranquillamente. Quindi non è un problema quello. Però le posso garantire, l'arma, io in casa mia, guarda, io sono uno di quelli che dice in casa mia legittima difesa, in casa mia non entri. Certo. Io non è che devo spararti se entri, se devo difendermi devo avere la possibilità di poterlo fare. Io per non sapere leggere e scrivere, assolvo anche quelli che sparano subito quando uno entra dentro casa. No, sì, così a prescindere. Amico mio, il postino. Ma che il postino? Magari. Entra un ladro, sto dicendo, di notte, senti i rumori. Mi sono sbagliato, è il ladro. Va bene, Rodolfo, grazie, buona serata, ciao, un abbraccio, ciao. Ragazzi, ci sentiamo tra poco, fermi lì. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Quando muoio voglio essere cremato. Le mie ceneri, Cruciani, le affido a te. Spargile in un bordello. E lì recita le parole: sei finalmente a casa. Questo è molto buono, Parenzo, questo è molto molto buono, devo dire. Ormai molto buono. Creato dei mostri. No, ma questo è veramente buono. Allora, devo introdurre una nuova tematica, un nuovo argomento di discussione, caro Parenzo. Indovina un po', secondo te che tipo di argomento introdurrò? Cioè, prova un po' a indovinare. Vai, indovina. No, ma in generale a quest'ora, non proprio a quest'ora, si può introdurre anche domani in apertura di trasmissione. Ma in generale, secondo te, quale argomento? Guarda, secondo me potresti introdurre, sicuramente introdurre questo argomento sulla crescita del lavoro e del fatto che oggi Bersani ha detto che oggi sull'Italicum voterebbe no. Ad esempio, io penso che tu potrei vorrai iniziare un grande dibattito su questo. Su questo, oppure sul concorsone, sul dramma della scuola che inizia. Il dramma della scuola. E la ministra Giannini e queste cose strampalate che il governo ha fatto di non fare le assegnazioni degli insegnanti, un tema che riguarda milioni di studenti che arrivano in classe, e sono sicuro che alle 20:36 del martedì tu vorrai affrontare il tema dei concorsi, ad esempio, e di quello che la ministra Giannini ha dichiarato oggi alla Repubblica, ad esempio, invece, immagino. No, non è così. Allora, non è così. Invece, non è come così. Suggeritomi da un ascoltatore, un tema molto interessante è il seguente: come cagare sul water. Non è possibile. È veramente interessante. L'abbiamo già in parte sfiorato nei mesi scorsi. No, è un tema interessantissimo, innanzitutto perché al cesso ci vanno tutti. Cioè, dal Papa fino all'ultimo dei coglioni vanno tutti a cagare, si poggiano tutti sul cesso. Ma nessuno si pone la domanda: come no? Nei paesi civili, nell'Occidente, in altri posti magari sì, perché non lo sanno, magari in India per strada quando non ci sono i bagni. Vedi che ne stai parlando, significa che la posizione significa che non esiste il tema, che la gente normale come non se lo pone. Cagare sul water. Allora, un ascoltatore mi scrive: introduciamo una nuova tematica. Come cagare sul water? Secondo uno studio, non si dovrebbe cagare. Studio? Aspetta, nella solita posizione. Come no? Non si dovrebbe cagare nella solita posizione in cui ci si pone sul water a 90 gradi, ma stando a 35 gradi, come gli animali, e usufruendo di uno sgabello per appoggiare le gambe ed inserirsi in una posizione comoda, in modo che gli escrementi escano meglio. Oppure, se uno è abile, inserendo le gambe sull'estremità della tazza e intanto cagare. Adesso questo non l'ho capito molto bene. Spiegamela tu meglio se riesci a capirla. Se uno è abile, inserendo le gambe sull'estremità della tazza e intanto cagare. Poi vi invio il video da cui l'ho visto. Anche. Sì, assolutamente. Anche il supporto audio-video. Tra l'altro è confermato da ulteriori studi. Basta cercare su internet posizione da utilizzare sul water. Vabbè. La posizione migliore, suggeriscono gli esperti, sono i 35 gradi. Ma quali 35 esperti? Il ritorno della zanzara è come quando ti scappa da cagare, vai sul cesso e in un primo momento non ti esce niente. Poi in realtà lo stronzo esce, fa schiaff e l'acqua del cesso sporca di merda ti si attacca ai peli del culo. Tu prima ti incazzi, poi però dici: cazzo, che liberazione. Ecco, il ritorno della zanzara è una liberazione. Le metafore degli ascoltatori. Ma che schifo. Le metafore degli ascoltatori. Ma che schifo. Sul basito, fa schifo. Ragazzi, quello che, il vero schifo non è questo, è quello che è successo in Calabria. In questo paese melito di Porto Salvo, melito di Porto Salvo. Melito è quello a Napoli. Questo mi sa che si dice melito di Porto Salvo. In Calabria, qualcuno la chiama la Calabria Saudita, ma noi non vogliamo dire niente, eh. Noi non vogliamo dire nulla perché certe cose possono accadere ovunque. E però è capitato in Calabria, melito di Porto Salvo. Questo è il paese, melito di Porto Salvo, dove una ragazzina è stata stuprata, pare, ci sono certezze da questo punto di vista, confessioni eccetera eccetera, da un gruppo di 7 persone, da un branco di 7 giovani capitanati, pare, dal figlio di un boss, e c'è stata omertà per anni. Omertà, pare, anche dei parenti della stessa ragazzina, che addirittura si vergognavano a far sapere che la ragazzina era stata violata. Melito di Porto Salvo. Vi faccio ascoltare alcune voci che vengono dal profondo dell'Italia, dalla famosa Calabria Saudita. Non lo dico io, è un appellativo che hanno dato alla Calabria un sacco di persone per prendere per il culo la Calabria, come dire: quella è la Calabria Saudita. Cioè, is not Italy, dicevano, no? Is not Italy, invece it's Italy. It's Italy. Delle ragazzine, guarda, sono troppo, guarda, non lo so, una volta non c'erano queste cose. La comunità si fa i fatti propri, ognuno, si guarda la propria famiglia, è meglio così. Hai capito, sì? Vabbè. Mamma mia. pare che alcuni parenti dicevano, addirittura un poliziotto avrebbe detto a uno di quelli coinvolti: non dire nulla, stai zitto. Un poliziotto, capito? Una roba schifosa. Che schifo. Oh, in tutto questo c'è un signore di Selle, non della Lega, che è bolognese, non si capisce poi perché a Bologna si è incazzato su questo, però va bene. Un tale che si chiama Lorenzo Cipriani, il quale dice: questo paese, cioè Melito di Porto Salvo, andrebbe bruciato e sulla cenere bisognerebbe poi spargere il sale. Non abbiamo niente a che fare con quel paese e con quelle persone. Per fortuna l'Italia non è tutta come questo paese di merda. Ma c'è la legge, mica. Ma il paese andrebbe bruciato, dice un tizio, di Sel, partito di Vendola. Ma di Sel, cosa vuol dire di Sel? Cioè, non, non è uno di della Sel. Lega. No, ma che vuol dire? Un dirigente di Sel è uno che dice di votare Sel? Un esponente Sel, di Sel. No, un esponente di Sel. Ah, un esponente. Un esponente ufficiale. Gravissimo, di Sel. Gravissimo. No, gravissimo, dai, su. Io posso capire invece la rabbia nei confronti di un paese che non si mobilita contro questi stupratori. Un dirigente politico non può usare questo linguaggio nei confronti di un paese e mettere un paese in croce, tutta la sua comunità, come se fossero tutti responsabili. Ma questo è un dirigente politico, ma che si vergogni. Anche se è di Sel, ovviamente, ma che scherzi. Vabbè, andiamo a Rosalinda, Pisa, vai. Rosalinda. Pronto? Sì, che è successo? Ti è caduto il telefono, che stai a fare? No, in verità mi preparo per la cena, visto l'ora. Mi preparo per la cena. Che cosa hai a casa? Sì. Un compagno, un marito, dei figli? Sei da sola? No, inizio proprio a cucinarmi. Ma a cucinare per te, per da sola? Sei single? Sì. Sono single. Sei single? Come mai una cosa? Non è che devi rimorchiarla per radio. No, però non lo sto rimorchiando, sto chiedendo se è single o no. Tranquilla, per i fattacci suoi, odia gli uomini, in particolare quelli che non si lavano. Ma come perché te. Odia gli uomini? Che ne sai perché che odia gli uomini? Perché si capisce che odia le persone ciniche che non si lavano come te, è evidente. Cioè, capito, preferisce secondo te persone dotate di affettività, persone che hanno un qualche minimo di coscienza civile. Sicuro. Dici, persone magari di sinistra, magari no, persone di sinistra. Non importa di sinistra o di destra, però che si facciano la doccia penso di sì. Non lo so, Rosalinda, che tipo di uomini vuoi? Quelli che si fanno la doccia ogni giorno, ossessionati dalla pulizia, persone che abbiano un minimo di cuore, oppure amano, dei figli di puttana stronzi? Che amano l'igiene. Che amano l'igiene, ma questa fissazione ossessiva per l'igiene, devo dire che è veramente fastidiosa questa ossessione per l'igiene. Sai com'è. Gli uomini fissati con l'igiene sono veramente malati, cioè sono veramente si nascondono, nascondono delle turpe. Turpitudini, secondo me, quindi eccessivamente fissati con l'igiene, nascondono delle cose tremende, secondo me. Cioè, sai quei film? Nei film spesso le persone, i serial killer, gli stupratori, sono sempre delle persone tutte a modo, non precisissime. Non direi proprio. Sì, nei film è sempre così, nei film è sempre così. Hanno sempre qualcosa di perfetto, no? Sono lì che senza una cosa fuori posto. Cioè, poi magari ammazzano, capito, per strada, stuprano, eccetera. Vabbè, Rosalinda, perché ci hai chiamato? Spiegami, cara amica mia. Ecco, abbiamo centrato il tema. Il tema abbiamo centrato. No, questa cosa qua mi fa molto trasmissione normale. Io non voglio persone che mi dicono abbiamo centrato il tema. È una cosa che trovo orribile, respingente, schifosa. No, ma sei riuscito a capire... Che cosa? Tema che devo affrontare. No, però Rosalinda, però vai subito al sodo, sennò veramente mi fai arrabbiare. Dai, già mi fai. Già sono. Dai, dimmi. No, non ancora. Dai, dimmi. Naturalmente la mia opinione è ma su che cosa? Mia. Ma su che cosa? Qual è l'argomento? Il tema? Come dici tu? Qual è? La prostituzione. Oddio, la prostituzione sarà un'altra di quelle moraliste che dicono la prostituzione, lo sfruttamento, il corpo delle donne. Allora, il corpo delle donne. Io voglio, c'è il corpo delle donne, ma vaffanculo. Sono anche dai, di larghe vedute, in verità. Sono anche di larghe vedute. Ma che vuol dire? Quindi, di larghe vedute? Naturalmente, che vuol dire di larghe vedute? Accantoniamo. Professoressa. Che mestiere fai? La professoressa, che fai? L'insegnante, il dipendente pubblico, che fai di mestiere? Sono semplicemente una disegnatrice di moda. Disegnatrice di moda. Oh, vedi. Vabbè, adesso ci non civile, sembra, ogni tanto chiaro. Qualcosa vabbè, di non vabbè, Rosalinda, perché mi hai chiamato? Mi sta facendo perdere tempo, perché mi hai chiamato? Ti spiego. Ecco, io volevo un pochino rifarmi, perché ascolto spesso la tua trasmissione ed è molto carina, lenta, la trovo molto interessante. E qualche settimana fa, appunto, ho sentito le interviste fatte ad alcune signorine, perché preferisco sì. chiamarle signorine. Apostrofarle in puttane, questo dai, modo. Puttane, prostitute, puttane, no, battone, bagasce, escort, escort, dai, su, escort, dai, ragazzi, escort, su, non sono escort, puttane, allora, ma così capiscono tutti, no, signorine, signorine. Naturalmente, queste signorine, alcune signorine. Sono felici del lavoro che fanno. E sicuramente mi ha molto colpito. Ma che cos'è un convegno questo qua? Che cos'è? No, una, è una persona, un simposio? Che cos'è? Una lezione di filosofia? Una persona che ci sta rompendo i coglioni. Rosalinda, qual è il punto fondamentale che vuoi dire? Una persona che mi sta facendo venire l'altra le ginocchia, mi sta facendo venire due palle grosse come una casa. Ma, cara no, dai, ma sì, dai, Rosalinda, te lo dico con affetto. Te lo dico con affetto, poveretta. Con no, affetto. Ma te lo dico con affetto. Capire, che vuoi capire? Quando una donna dice che ama il latte in bocca dell'uomo. Ah, quella signorina che diceva che amava il latte in bocca dell'uomo. Oh, ma se uno ama il latte in bocca dell'uomo, tu ami il latte in bocca dell'uomo, Rosalinda? Aspetta, aspetta, fermine, che siamo arrivati a un punto fondamentale. Alla fine ci siamo arrivati al punto. Assolutamente. Tu ami il latte in bocca dell'uomo o no? No, assolutamente. Ma questo qua è il latte in bocca. Il latte in bocca, sai quando uno prende la bottiglia di latte e mette il latte in bocca? Parenzo, che cosa vuoi che sia? Il latte in bocca dell'uomo. C'è una prostituta che è intervenuta da noi, che Dio l'abbia in gloria, una tale Iside, la quale ha detto che amava il latte in bocca dell'uomo. E vabbè, saranno affari suoi o no? E qual è il problema? A te ti dà fastidio? Rosalinda, l'hai mai praticata questa cosa qua? La fellazio con l'ingoio, l'hai praticata o no? Assolutamente no. Ma perché mamma mia? Posso fare che sto parlando di cose incredibili? Posso non farlo? Scusa, Parenzo, aspetta un attimo, Rosalinda, fermi. Mamma mia. Aspetta. Mamma mia. Da anni. Però, Rosalinda, fermi, no, fermi dico, un attimo. Ma anche questa che chiama, no, però, scusa, ma cosa c'è in testa? Davide, sta io qua? Però ti voglio dire una cosa. Sembrava una persona normale, poi il telefono alle 20:44 per interrogarsi su una roba così, ma che è? Ma che roba è? Ma chiami il porn? Normale. Però, scusami, Davide, ma ti posso dire una cosa? Ma chiami il porn di ste porcherie, io signora mia, dai. Semplicemente capire. Sì. Ecco, semplicemente capire come si prova piacere a fare nel... Ma signora, ma chiami... No, no, no. Aspetta, ma fammi sentire! New porn, chiami, ma che roba è? Che a fare, tu dici come si prova piacere a, con l'ingoio, questo. Al latte, con latte. Concedere piacere a chi non si conosce ad un... Vabbè, quello fa parte di un mestiere, signora mia, amica mia, questo è un altro discorso. Quelle per mestiere fanno i cosiddetti pompini. Una delle cose che fanno è quello. Lei sarà d'accordo, non sarà d'accordo? Non so, ha mai praticato l'argomento? Ha mai fatto un pompino a qualcuno? Rosalì, l'hai fatto un pompino a qualcuno o no? Ma probabilmente. Oh, ma però non a sconosciuti. Ma tu non fai la prostituta. Non fai la prostituta. Fai un'altra cosa. Quelle di mestiere fanno le prostitute. Dunque fanno pompini a sconosciuti. Di norma, Parezzo, non sto dicendo delle cose incredibili. Sto descrivendo la realtà. Sto descrivendo la realtà, che è questa. Le prostitute cosa fanno concretamente? Ma è una porcheria. La realtà. Che cos'è la porcheria? Perché la porcheria? Non capisco. La realtà, cioè la verità. Cioè, cosa fanno le prostitute? L'ho detto Rosalinda. Devi darmi atto questa volta che non ho portato io Rosalinda a parlare di pompini, dammene atto o no? Ma che do atto? È non me ne dai questa atto o no? Telefona, ecco, per entrare nel dettaglio del lavoro di una signora, ma sì, quell'altro è schifato. Oh, schifosa. Ma schifosa di che? Ma io non capisco qual è lo schifo. Rosalinda, qual è il problema? Non ho capito bene. No, io non provo schifo, ripeto, io non sono assolutamente. Una perbenista no, ma dice che ti fa schifo il latte, amica mia, ti fa schifo il latte, allora è un altro discorso questo qua. Allora, più perbenismo di così, che tu dici mi fa schifo il latte, ho capito, capisco quelli degli sconosciuti, ma almeno della persona con cui stai insieme non ti dovrebbe fare schifo, o no? Ma dovremmo stare insieme da parecchio tempo, dovremmo conoscerci, cioè dopo quanto tempo pratichi la fellazio con ingoio? Scusa, dopo un anno, due anni di... Probabilmente dopo un anno. Dopo un anno, mamma mia ragazzi, dopo che un disastro. Anno. Mamma, poveracci tuoi fidanzati. Poveracci, mamma mia. Ma bisogna prima conoscere il corpo, conoscere il pensiero, stare bene insieme... Ecco, è un po' questa. Parenzo, questo ti dovrebbe venire incontro, però, come tematica. Cioè, una persona che dice: prima di affrontare certe cose, prima di fare certe cose dal punto di vista sessuale, bisogna conoscersi a lungo. Ma era meglio se questa qui si fosse messa a preparare il risotto a casa. Ma perché? Ha detto quello che pensa. Pensa che la prostituzione non vada bene, ma lo sfruttamento, che pensi che sia sfruttamento la prostituzione, Rosalinda? Beh, certo, sicuramente.